Vuol dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. You'll take another piece of me to satisfy your intellectual need. Ma gli ascoltatori, alle 18:30, a voi che siete nei campi rom che state bruciando il rame, a te che c'è il semaforo che sei lì a lavare il vetro, o a te muratore, ma alle 18:30, ma che cazzo di stazione stai a cercare? È qui dove puoi intervenire e battagliare, però non ti devi incazzare, perché questa è la Zanzara di Cruciani e Parenzo e tu nulla, nulla ci puoi fare. And that's why everybody wants a piece of the action. Everybody needs a main attraction. I got what everybody needs. Satisfaction guarantees that everybody wants a piece of the action. Salve, sono in linea con i due simpatici stronzi, lì Cruciani e quell'altro lì, come cavolo si chiama, Paranza, Parenzala. Allora ragazzi, c'è una frase che volevo farvi sentire del governatore del mondo, il governatore della Campania, prossimo governatore d'Italia, nonché di questo pianeta, Vincenzo De Luca. Beh, Vincenzo De Luca, ma come no, come no, come no. C'è una frase che volevo farvi ascoltare che ha detto De Luca sui rom, sui rom. Una frase molto salviniana, non è che si senta benissimo, però dà un'idea del perché io l'ho nominato governatore del mondo, governatore del pianeta. Certi rom, beh, che rubano, sì. Gentaglia, gentucola, miserabile, quasi come la Bindi, rom. Grande umanità e rispetto nei confronti di chi vuole integrarsi, di chi vuole mandare i propri bambini a scuola, dare non una ma 10 mani, pugno di ferro nei confronti di chi vuole fare il delinquente e toglierci la serenità di vita, nei confronti di chi magari a Scampia nel campo rom ruba la corrente elettrica, ruba l'acqua e poi fa le spedizioni per andare a rubare i cavi di rame, i tombini di ghisa e a fare furti negli appartamenti o magari a incendiare i roghi nella terra dei fuochi. Con chi ha queste cose in testa nessun dialogo è possibile. Beh, praticamente non è possibile alcun dialogo con la stragrande maggioranza di coloro che abitano nei campi rom, Parenzo. Bisogna dire la verità. Beh, no, non ha detto questo il presidente. Beh, praticamente ha detto sì. Cose che io condivido, perché con chi ruba non c'è, cioè, nessuna trattativa, sì, da fare. Però si è riferito direttamente ai rom, a quelli dei campi. Ha detto, siccome nei campi c'è gente che ruba l'energia elettrica, ruba il rame, eccetera eccetera, cioè se uno va a fare, diciamo la verità, se uno entra dentro un campo rom e va a scorrere la fedina penale o comunque i precedenti, le denunce eccetera dei singoli appartenenti, adulti ma anche non adulti, ai campi rom, cosa esce fuori? Percentualmente secondo te? Trova nei campi rom meno indagati di quanti non ce ne siano a Palazzo Madama o a Palazzo Chigi. Perché devi dire queste stronzate? Lo possiamo dire con grande serenità e tranquillità, guarda, senza scomodare l'amico Mario Capanna. In un campo rom il 0,44% degli abitanti e residenti sono persone integrate. C'è una percentuale che sicuramente ruba, ma mai superiore a quante ce ne sono a Palazzo Madama. Al Senato, e diremo questo dato per tutta la trasmissione chiamata inopinatamente La Zanzara, trasmissione oscena prodotta da un emittente che è Radio 24, della proprietà di alcuni signori che sono sfruttatori per definizione, cioè appunto come dicevamo poco fa la Confindustria. Bene, in questa emittente viene fatta costantemente propaganda contro la popolazione rom barra sinti, che andremo a descrivere nei dettagli. Bene, negli anni 60 noi avremmo preso gli amici della Confindustria e li avremmo presi a pedate nel sedere. Ma cosa c'entra adesso? Cosa c'entra? C'entra moltissimo, invece adesso lo andremo a spiegare immediatamente in questa trasmissione che ebbi a definire nel 2015 trasmissione oclocratica. Molto bene, quindi a questo punto diremo che l'integrazione dei rom diventa fondamentale e andrà fatta con un esproprio proletario. Ma utilizzando quale esproprio? I soldi di un'azienda chiamata Mapei, di proprietà di un signore, ma si chiama dottor... Assolutamente, andiamo avanti e fammi scusi, parlare. Scusi Capanna, lei che vuole fare? Cialtrone, vuole fare espropriare una... Squinzi per dare i soldi ai rom. Per dare i soldi ai rom. Finalmente anche la tua idiota intelligenza è arrivata a capire qual è il punto vero del 2016. Espropriare Squinzi per dare i soldi ai rom. L'azienda Mapei sarà espropriata dal sottoscritto con un gruppo di amici. Perché solo la Mapei? Perché è diventato un simbolo che andrà combattuto. Come facevamo negli anni 60, gente così veniva presa a sassate a calci nel culo. A calci nel culo. E che non si presenti quei signori come Barisoni, che nello spazio tra le ore 17:30 e le ore 18:30 ci spiegano i mercati finanziari. Gente così dovrebbe andare a zappare la terra. Negli anni 60, vabbè, persone capito, come Barisoni venivano presi a sassate in faccia e si è detto con grande moderazione. Non capisco perché ogni tanto Capanna si insinua in questa trasmissione e dice la sua, ma poi dice che non vuole essere chiamato, è lui che chiama e rompe i coglioni. Comunque, abbiamo detto di De Luca, governatore del mondo, in apertura di questa trasmissione, per quello che ha detto sui rom, e lo confermo. Devo dire che un gradino più sotto, ma solo un gradino più sotto, ma leggermente più sotto, nella scala valoriale, sì, nella scala valoriale della Zanzara, c'è quello che potrebbe essere definito non il direttore generale, no. sarebbe una diminuzio il direttore generale, perché insomma lui è l'amministratore delegato in questo momento di un grande gruppo industriale italico, quantunque trasferito, diciamo, all'estero, ecco, appunto, quantunque esatto. trasferito all'estero. Esatto. Però dico io, e non può essere definito direttore generale, potremmo definirlo come dire il direttore operativo del governatore del mondo, colui che sarebbe una coppia perfetta, diciamo la verità, De Luca e Marchionne. Stupendo, chi non li vorrebbe alla guida dell'Italia? De Luca e Marchionne, io sono sicuro con De Luca e Marchionne risolveremo un sacco di problemi. Allora, io quando ieri ho visto Marchionne, ho sentito Marchionne pronunciare certe frasi sui giornalisti e se vogliamo anche sulla politica, devo dire mi sono commosso, volevo abbracciarlo fortissimo col maglione. Che cosa vorrà fare dopo e se vorrei fare il giornalista, questo esclude di candidarsi in politica? Mai. Se sono stato chiaro, mai. Satisfy your intellectual need. Do you want action? Gonna bring you down, cause you've been pushing me. You gotta recognize my superiority. And that's why allora, discorso di Capodanno, non del Presidente della Repubblica, sono passati quattro giorni per carità, ma di Natalino Balasso, il signor Natalino Balasso. Senti cosa dice il signor Balasso, stupenda questa cosa qui, eh. Affidare 200.000 euro a una banca è come... Magari volete che vi dica che è una vergogna che le banche depredino i risparmiatori. Le banche lo fanno, lo sappiamo, ma affidare 200.000 euro... a una banca è come fare i nudisti in galera. Lo sportello bancario di per sé non ha niente di pericoloso, ma se ti affacci col culo è con chi vuoi prendertela. Poi dice grande censura, la RAI non manda in onda la mia commedia. La RAI non manda in onda la mia commedia perché ci sono riferimenti al sesso, alla religione, perché ci sono le parolacce e sai cosa mi hanno detto? Che se cambio i testi della commedia, la mandano in onda. Questo significa che quello che vedi in televisione non è scritto da gente libera, è scritto da gente che ha bisogno di leccare il culo. Beh, magari la RAI non vuole mandarla in onda la commedia del mitico professore Nadalino Balasso a orari, diciamo, no, di prima serata, magari, ecco, sì, non lo so. Forse è questo. Certo, forse è questo, per carità, se c'è una censura, poi non so quali siano i canali, eccetera, eccetera. Però torniamo ai 200.000 euro di Balasso. Se avessi 200.000 euro, come diversificherebbe il signor Balasso? Io non ho mai avuto 200.000 euro da investire. Se muoio domani, la banca ci rimette. Ma se li avessi, differenzierei gli investimenti. Un po' in droga, un po' in alcol, un po' in pay TV, eccetera. Adesso va benissimo la satira, quello che vogliamo. Non è che uno per forza 200.000 euro uno li mette in banca se è sicuro. Anch'io non faccio investimenti, per carità. Odio gli investimenti. Quando uno mi propone, sì, ci sarebbe un tasso così, cioè io dico, no, per carità, niente, 0%, ma non me ne frega nulla, assolutamente. Buoni dello Stato. Ma non buoni dello Stato, nemmeno buoni dello Stato, niente, nulla. Voglio avere i soldi liquidi, non me ne frega niente di fare gli investimenti, a meno che non avessi, cioè, se avessi 10 milioni di euro, la può darsi ci penserei. Ma... Zio Paperone, sei nuoto. No, se avessi. Della detto, tua se reggia umbra di soldi lì. Ho detto, se avessi. Tieni la liquidità in banca, bravo, vabbè. Balasso, siamo tutti razzisti. Non ci accorgiamo del razzismo che è dentro di noi quando il tassista è arabo. Tengo la mano sulla maniglia della portiera, ma non lo faccio apposta. Sono pronto a buttarmi, è un riflesso condizionato. Quando vedo il gay pride, mi si stringe il buco del culo, non lo faccio apposta. Adesso, ma è che se uno... Sì, a te ti si stringe il culo, pure a te. Io capisco, diciamo, perché alla RAI si possono fare, diciamo, mille critiche, mille uno. Capi come ti ho dato da fare, mille contro la sanità. Però capisco perché magari alcuni dirigenti RAI hanno avuto qualche lievissima perplessità a mandare in onda in prima serata lo spettacolo dell'ottimo Natalino. Non so se fosse prima serata, fosse... No, ma insomma, permesso che va mandato in onda tutto. Cioè tu però... dici, però andiamo, no, al merito, andiamo, no, al merito della questione. Se tu vedi il gay pride, oggettivamente, è satira, per carità. A me non mi si stringe il buco del culo, dunque io non è che sono contro i gay. Non è un riflesso che, cioè, mi è, tu vedi il gay pride e ti metti una mano dietro così. Assistito a tanti gay pride, li ho visti i primi, insomma, non avevo questo riflesso. Senti quest'altro eccezionale sulla donna che parcheggia. Se vedo una donna che sta parcheggiando, penso non ce la fa, se non mi piace. Se invece mi piace, la aiuto a parcheggiare. E la aiuto a parcheggiare perché spero di scoparmela. Io mai nella mia vita ho aiutato un camionista a parcheggiare. E sì che il mezzo pesante ne avrebbe più bisogno. È un genio veneto, bisogna dirlo. Sì, è un genio assoluto, un genio veneto. Sì, diciamo. Veneto, che ci facciamo contenti gli amici della Lega Padana, lì, come si chiama, della Liga Veneta. È un genio veneto. Da oggi diremo quello è un ladro rom, quello è un genio veneto, quello è un gran costruttore. Sei tu il primo, da oggi faremo così, sono contenti quelli della Padania così. Anche qui, tu se vedi una donna che parcheggia, gli dai qualche indicazione solamente se te la vuoi fare, no? Beh, istintivamente se vedo una brutta, sì, se vedo una brutta l'aiuto a strisciare la macchina. Non è vero, adesso stai facendo, prendendo le parti di Balasso, ma non è vero. No, non è vero, non è vero, però dice una cosa che non è così lontana dalla realtà, questo no. Il leone. Questo. La zanzara. C'è un'altra cosa di Balasso però, c'è un'altra cosa. Una delle storielle che vi piacciono di più e che mi fanno più cagare, se me la mandate ancora vi mando la Digos a casa, è quella del leone, della gazzella. Avete presente che tu sia un leone, che tu sia una gazzella, devi alzarti alle 6 del mattino e metterti a correre come un mona. Sapete cosa vi dico? Io sono un ippopotamo, mi alzo a mezzogiorno, faccio il bagno, cago in acqua e vaffanculo te, quel sempio del leone, quella puttana della gazzella e la vostra faccino rosa, ansia di competizione. Barakura. tu dici che puoi capire gli amici della Rai che, non sì. che hanno qualche perplessità. No, ma solo qualche perplessità, magari qualche riflessione. Immagino, dottor Campo dall'Orto, quando il signor Balasso si arriva lì, no, a Piazza Massini, che ha detto: Campo dall'Orto, e ora ti racconto la storia di ippopotamo che cagava in mare. Quello dice: ma adesso vediamo un attimo dove collocare. No, come dove collocare? C'è censura che sei, porca puttana. Ma dai, che vuoi, i froci, che sei dappertutto, i froci del merda. Femo una robetta su Rai 2, su Rai 1 col Vaticano, mandiamo in cuo, femo, famo. E dice: ma guardi, su Rai 1 magari, sa, alle 20, alle 21, su Rai... come? Allora che sei censura, porca puttana, vaffanculo. Sì, però sarebbe ora di porre fine a queste cose. No, per capito, anni, però è legittimo. No, per anni, per anni Rai 1, cioè la televisione, la rete televisiva più... Ammiraglia, quella più ascoltata, credo, in Italia, no? In generale, durante l'anno, è stata appaltata dai signori del Vaticano, che non mettevano... So, beh, come no, mettevano bocca su tutto, mettevano bocca su... Appena qualche cosa di strano succedeva che, no, che non andava bene al Vaticano, a qualche prelato, a qualche cardinale altissimo, c'erano telefonate, cose... Addirittura facevano delle nomine il Vaticano. E beh, io, viva Balasso a Rai 1! Anzi, in prima serata a Rai 1 dovrebbe andare Balasso. Questa sarebbe la vera differenza, questo sarebbe il vero scarto, questa sarebbe la vera rivoluzione, caro Campo dall'Orto e tutti i dirigenti della Nuova Rai. Mettete uno come Natalino Balasso in prima serata su Rai 1, in seconda, ma su Rai 1, così rompete questa cosa folle per cui non si possono dire delle cose un po' strane che no, che danno fastidio ai signori del Vaticano e ai cattolici. Allora, Francesco da Roma, vai Francesco. Sì, ciao Giuseppe, devo raccontare una cosa. Ieri stavo leggendo il Corriere e ho letto che sì. su un peschereccio a nord della Sardegna due simpatici pescatori hanno attaccato un petardo al collo di un gabbiano. Sì, sì, ho letto anch'io. Ecco, sì. Io, a parte che a me i penuti mi stanno sulle palle, mi fanno schifo, mi va a Roma che è piena di gabbiani, piccioni e una zozzeria. E vabbè, io... No, la storia del guano a Roma è una cosa che... è una storia che mi ricordo fin da quando ero piccolo e non è mai stata risolta. Ora, uno dice, si dovrebbe risolvere, può darsi. Credo che però di fronte alla cacca dei piccioni, sì, è vero, ci sono degli studi pazzeschi, si potrebbe fare qualcosa, ma è difficile anche difendersi. No, guarda, io quello che faccio per la mia città, io abitando in mansarda, ho una carabina, gli sparo. Cioè tu spari, ok, però non risolvi una mazza, non è che puoi sparare a tutti i piccioni che fanno il guano. È quello che posso. Cioè ti diverti con i pallini a sparare ai piccioni. Cioè, tu stai ma una carabina come a pallini, naturalmente. Beh, vedete, sono bicchierini d'acciaio. E cioè tutti la possono comprare questa carabina. No, ci vuole il porto d'armi in realtà. No. Ci vuole il porto d'armi per questa carabina. Tu sì, hai l'ho fatto prendere a mio padre, anche lui. E però lo usi tu. Sì, lo siamo insieme, ci appostiamo in mazzata. Stai dicendo che li ammazzi, gli spari, dunque tu spari, ma non potresti sparare, diciamo la verità. Sì, questo è corretto. Vabbè, è corretto. Comunque, tu spari ai piccioni, no, questo è interessante, però ti diverti a sparare ai piccioni. Sì, mi fanno profondamente schifo, e secondo me è veramente una merda. Siamo veramente al top. Tu sei sul come dire, sul... Io sto in camera mia, nella mia mansarda, davanti a Montevideo, davanti a Villa Manfigli, è pieno di piccioni schifosi, e quando si appostano ai palazzi di fronte, io sparo. A maggior ragione... Ma muoiono o no? Li prendi o no? Sì, mazza, una volta erano specchiti quattro, stavano nella rampa del garage sotto, infatti quelli di sotto dicevano: ma che cazzo è successo? E che era successo? Niente, non hanno fatto indagini. No, gli avevo sparato. Sì, ho capito, ma non hanno fatto indagini varie, no? No, per fortuna no, infatti mi sono dato una calmata, perché obiettivamente... sì, è un po' criminale, oggettivamente è un po' criminale, anche a me i piccioni... Ma se questi stanno sulle palle i piccioni, ho capito, spara i piccioni, ammazza i piccioni, ho capito. Però, scusami, ma che vuoi fare? Lo vuoi far arrestare adesso? No, vuoi convocare i signori animalisti per fare una denuncia contro Francesco da Roma? Perché ci sarà qualcuno che sicuramente dirà questo. Ma giustamente, però, spara i piccioni da una mansarda a Monteverde. Già, il fatto che uno che spara da una mansarda a Monteverde lascia stare i piccioni a chi che sia. No, già i piccioni, uno che spara. Non è che spara gli ma esseri no, umani, ma già uno sarà che diverso, no? Ma è pericoloso, che cosa gli spara sti piccioni? Con questo fucile a pallini, giusto, ecco, Francesco? Ma è pericoloso anche per gli umani, non ci si mette a sparare per strada da una mansarda. Francesco, come rispondi piccioni? A questa cosa? Ma non c'è da rispondere, c'è da fermarlo subito, ma non da rispondere. Non ci sono umani a quinto piano. E se per caso quel bozzoletto finisce su una nonnina che sta attraversando la strada? Ma comunque vi volevo dire, in merito a questa articolo... Uno spara così, è normale, per Cruciani è normale. In aria, io l'ho ripostato su Twitter e su Facebook e mi hanno dato della merda, del pezzo di fango, dicendomi che mi devo mettere... Cioè, che cosa hai scritto su questa roba qui, scusa? Ho scritto, io sono dalla parte dei pescatori e spero che la magistratura indaghi crimini seri, anche perché proprio di ieri è la notizia che un giudice ha spostato il ruolo giudice, ha rimandato un'udienza a 5 anni perché aveva il suo ruolo pieno. Quindi ho fatto una considerazione: ma è possibile che la magistratura apra un'inchiesta, e non so neanche per quale capo di imputazione, verso un gabbiano morto, quando invece di indagare su crimini seri? Questa mi pare la follia proprio, la follia. Sì, vabbè, questo è un altro discorso, però tu adesso appunto stai sfuggendo ad una cosa. Non sto sfuggendo, cioè, però stai dicendo che hai fatto, che hai scritto una cosa su quei due pescatori che in Sardegna, sì, sono divertiti. Dalla parte loro. Ma sei dalla parte loro, adesso io oggettivamente detto, tu sei un pezzo di merda, la crudeltà. Beh, Francesco, però scusami, adesso mi permetto di dire una cosa. Io, per carità, sai quanto posso amare gli animalisti e cose di questo tipo. Però se due signori pescatori sardi si divertono. Criminali, due criminali. Ma non criminali, sono criminali. No, dicono per divertirsi l'hanno fatto. Comunque è una roba criminale. Stavano mangiando il pesce che avevano pescato. Loro, io ho letto che si stavano divertendo in realtà a Capodanno. Beh, comunque, in realtà fa un po' ridere, una sciarada, signori, una sciarada. Cioè, che cosa hanno fatto? No, ripetilo pure, ripeti che cosa hanno fatto. Allora, c'era questo gabbiano che volteggiava sopra il peschereccio che era pieno di pesce, come quelli che si vedono che rientrano in porto nelle isole. L'hanno placcato, non so come, perché non è facile. Hanno placcato gli hanno legato un bel petardo al collo, questo è rivolato via ed è esploso. Beh, insomma, è una porcheria. È da sanzionarli. Infatti, sono stati sanzionati per maltrattamento agli animali. Ma questo è una cosa gratuita e violenta, ovviamente. Vabbè, comunque, tu hai detto che eri dalla parte loro e ti hanno, ovviamente, giustamente. Detto, merda, giustamente. Non hai diritto di parola. Non hai diritto di parola. No. Insomma, l'insulto più totale, quando io non avevo insultato nessuno. Vabbè, Francesco, comunque mi raccomando. La mia è un'opinione, poi. No, per carità. I pennuti mi fanno profondamente schifo. In particolare a Roma, che c'è veramente. Oh, i pennuti gli fanno schifo. Ma non è che uno, se gli fanno schifo i pennuti, deve essere considerato un criminale. No, ma spara mi, i piccioni. Risulta tra l'altro, ti posso annunciare, Parenzo, che sono andato a fare la caccia al cinghiale. Quando? In questi giorni ho anche delle preziose foto che divulgherò. Ma dove l'hai fatta? La caccia al cinghiale a Milano, in Umbria. Non c'è nessun cinghiale. In Umbria. La caccia al cinghiale. Ho partecipato a una battuta di caccia al cinghiale. Non è vero. Siamo veramente al top, ti assicuro che è una delle cose più divertenti che ci possano essere. La caccia al cinghiale, no, bellissimo. Quello, sì, immagino che sia. Ciao Francesco, Barla Udine. Barna, senta, buonasera. Come si chiama lei, scusi? Barna, come si fa a chiamarsi Barna? E che ne so. Ma però scusi, è il nome di battesimo è Barna? Sì, è proprio così. Barna. Vabbè, ma ho capito, ma perché? Ma che significa Barna? Ma non so che significa. Ma io come voglio... non sa? Quanti anni ha lei? Io ne ho 60, ma non so cosa significa a 60 mio anni, nome. A 60 anni uno non ha fatto indagini per capire cosa significa Barna. Se uno si chiama Giuseppe, ma uno no, può rintracciare. Ma perché non me ne può fregare di meno? Barna, vabbè, uno si chiama Barna. Vabbè, accettiamo. Ma accettate tutti questa cosa. Parenzo non dice niente, è normale. Parenzo deve solo star zitto perché io voglio parlare dei rom. Che cosa vuoi dire? Dei suoi amici. Voglio dire che mia figlia abita a Milano, sì, in corso Raffaello 14, chi? Casa Ringhiera. Chi? Lunedì scorso, 4 rom. I vicini hanno avuto paura a chiamare i carabinieri. Siamo ridotti così. Allora adesso voglio che Parenzo che mi dica. Cosa dobbiamo fare? I carabinieri li hanno visti fuggire, ma cosa facevano? Sparavano nelle gambe? Vabbè, ho capito, quelli sono due ladri che sono scappati. Quattro ladri che sono scappati. Ma hanno rubato in casa di chi? In casa sua? In casa di mia figlia. E che hanno rubato? È tutto loro, hanno lasciato l'argento, le perle. Come fai a sapere che erano rom? Beh, scusi, i carabinieri hanno detto che i rom lasciano le perle e l'argento, non interessa loro. Per cui... hanno preso solo ma loro. E io cosa devo fare? Lei deve smetterla, deve smetterla di difenderli. Ma chi lei deve smetterla di difenderli. Ma Barna cara, Barna cara. Barna cara è un cavolo. Chi difende i rom? Scusi, lei li difende. Ma lei io li difendo. Difende Spedaprasta. Io sono contro i ladri. Lei i ladri. Ma io invece Barna sono mia. Per i ladri furbi. io invece sono per i ladri furbi, per Barna, quelli che vanno in banca a svaligiare la banca. L'adorabile nonnina Barna che no, ci chiama. No, nonnina non sono ancora. Beh, vabbè, insomma, comunque la potenziale nonnina Barna di sì? Non so dove, di Udine, non so di dove. Di Udine, sì, va bene. Ecco, mi chiama, ci chiama per dire Parenzo deve stare zitto perché difende i rom, la nonnina Barna. Sì. La nonnina Barna deve, di Udine Barna, deve sapere sì? Che Parenzo non difende i ladri. L'ascolto tutte le no, sere. Ecco, tutte le sere, il Parenzo. Più delle volte sono d'accordo con lei, non con Cruciani, oh, ma sul brava. Fatto dei rom, no. Ma lei nonnina, la deve smettere. Ma nonnina, non io non posso smettere. Ma ladri nonnina, furbi non io... sono ladri furbi. Ma nonnina di Udine, io non posso smettere di fare ciò che non faccio, cara Barna. Vabbè ragazzi, comunque ho scovato questo Francesco che ha scritto: io sono con i pescatori e spero che la magistratura indaghi sui crimini. Questo il tweet incriminato, indaghi sui crimini e non sui gabbiani. Va bene, Mario da Firenze, vai Mario. Pronto? Sì. Io francamente non me la sento adesso con tutta con tutto il è un no, cretino no, il, uno può essere anche può andare sempre controcorrente, ma è un eccetera. Cretino ma non è controcorrente, ma non, ma è un cretino. non così a caso, diciamo, se uno per gioco, ripeto, per gioco, certo, se questi qua rompevano i coglioni si può discutere, ma se per è? Gioco, ma è una tortura, se ma per gioco ha allegato dei gabbiani e poi li ha fatti esplodere in volo, è un cretino questo qua, questi pescatori sono è degli un imbecilli. Criminale, si può dire, ma è un criminale, dai. Mario da Firenze, dai. Adesso ci sarà una differenza tra ammazzare un animale e un essere umano? Ci sarà una differenza? Sì, spero di sì. No, ma non è che sì. Devo andare all'ergastolo questo però, qua. Se ammazzi, se ammazzi no, un essere umano, vai. Ecco, sai qual è la vera differenza? La vera differenza che c'è è che anche il codice mette per iscritto che se tu ammazzi un animale, lo fai esplodere, non prendi l'ergastolo. Se fai la stessa cosa e fai esplodere un essere umano, molto probabilmente, magari non in Italia, ma comunque prendi l'ergastolo. Questa è la differenza. Dunque, ammazzare un gabbiano è una cosa, ammazzare un essere umano è un'altra. Comunque, secondo me, devo dirlo a malincuore, devo dare ragione a molti animalisti, uccidere un gabbiano in quel modo è da cretini. Ci sentiamo dopo. Amici camionisti, ascoltate la Zanzara perché è un programma senza filtri, è tutto vero, non c'è niente di complottato. La Zanzara. Senti, ma io mi domando, io passo le giornate a rispondere a quelle persone che mi chiedono perché continuo ad ascoltarti. Io considero uno dei giornalisti più intelligenti della radio e poi tiri fuori delle puttanate che non so come fanno a venirti fuori, ma tu la riascolti la tua trasmissione quando hai finito di farla, la sera quando vai a casa, oppure boh, cancelli tutto e va bene così. Allora, ieri mi sono scordato di dire una cosa, caro David, durante le vacanze, così, nella... sai quando uno poi non ragiona nemmeno troppo sulle cose che sente, no? Perché tanto non deve commentare in trasmissione, non deve dire nulla, per cui chi se ne frega. A un certo punto, quando è scoppiata questa cosa ridicola, non ridicola, di più, non so trovare un altro termine, direi quasi ripetitiva... ma nel senso peggiore del termine, se dell'inquinamento delle città, c'è una cosa che sento da 40 anni, l'inquinamento delle città, no? Esiste il problema, sì, no? Sì, l'inquinamento delle città, sì, e poi la circolazione delle auto, non c'entra una mazza l'inquinamento delle città e la circolazione delle auto. Vabbè, ma lasciamo perdere l'argomento che ormai è superato, perché poi naturalmente gli argomenti vengono affrontati in 3-4 giorni e poi vengono completamente messi da parte. Allora, c'è il ministro dell'ambiente italiano, signor Galletti, che non rappresenta nessuno se non se stesso, immagino, no? Cioè, se non un patto ormai morto e sepolto che purtroppo tiene ancora in vita il governo Renzi, cioè il patto tra Alfano e Renzi, perché altrimenti Galletti non ha nessuna possibilità di diventare ministro in nessun altro governo della storia della Repubblica. Ma sì, beh, sì. Dai, su, diciamo la verità. Cioè, perché Galletti deve fare il ministro? Fa il ministro perché c'è un patto tra Renzi e Alfano. Signor Galletti ha partecipato a non so quale riunione ambientalista nel mondo ha proposto di ridurre i limiti di velocità a 30 km orari nelle città. Non è una cosa però furbissima, mi dicono alcune. Cioè, ho letto che farebbe peggiorare le cose. Sì, esatto, peggiorare. Questo, cioè, peggiorerebbe l'inquinamento. Cioè, sì, le macchine inquinano di più se vanno a 30 km orari. Capito? E questo l'ha detto il ministro dell'ambiente italiano. Bisognerebbe avere il coraggio di chiudere tutto, infatti, di fare il blocco delle auto per un mese intero. A parte che a mio parere il ministero dell'ambiente va chiuso, il ministero stesso dell'ambiente. No, ma come, questo no, questo sì. Anzi è uno dei ministeri più importanti, altro che chiusura, resta. chiusura. Se uno deve diminuire i ministeri, uno dei ministeri da chiudere è l'ambiente. Poi voglio dire un'altra cosa, ho letto di diciamola tutta, per fare certe cose bisogna anche essere attrezzati, no? Bisogna essere preparati per fare delle mandracate, per fare delle stangate, bisogna saperci fare. Allora, quei simpatici signori che adesso passeranno dei guai, che hanno tentato di introdursi nel party di fine anno a Cortina, quello forte, dove c'era il signor Jerry Calà, sì. Spacciandosi come ospiti del comando generale della Guardia di Finanza, uno ha chiamato dicendo sono il segretario del comandante però. Generale della Guardia di Finanza. Molto alla Tognazzi, però. Ma che molto alla Tognazzi? Ma sei un imbecille, ma sei un cretino. Alla Tognazzi ci riusciva, però. Cioè, questi no, qua dico molto alla amici. Ma miei, Tognazzi, ecco. Che chiamo? Sono il segretario del comandante Pinco Pallo, che poi hanno detto pure il nome vero del comando no, generale ma della c'è Guardia di Finanza. Scena, a me appena ho letto la notizia, è venuta in mente. Adesso forse Poli e tutto lo staff riescono a trovarla. Quella scena eccezionale di Amici miei, in cui loro si intruffano in quel party senza essere invitati. E a un certo punto arrivano le padroni di casa e li abbracciano. È una scena straordinaria, è bellissima, è così. Sì, ma no, ma ho capito, ma qui non c'è nessuno, Amici miei, perché non nessuno è stato abbracciato. Questi qua li hanno pizzicati, perché a un certo punto uno si è messo a fare una verifica perché gli sembrava strano. Ha chiamato la Guardia di Finanza, hanno verificato che non erano loro, cioè che non c'entrava niente la Guardia di Finanza, erano quattro coglioni. Anzi, un coglione, perché un coglione voleva invitare delle persone a Cortina, voleva mandare delle persone a Cortina, un odontotecnico romano. Voleva mandare delle persone a Cortina, li ha mandati, questi non c'entrano niente, dicendo che erano invitati al tavolo d'onore lì alla serata in cui la guest star era l'amico Jerry Calà. Si sono presentati, solo che poi c'erano dei signori della finanza che hanno controllato i documenti, li hanno fatti sedere, tavolo principale, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto sono scattati i controlli. 350 euro a testa hanno pagato questi qua poi. E quell'altro viene denunciato per mille reati, tra cui anche sostituzione di persona. Sostituzione di persona, anche noi siamo stati denunciati. Ecco, perché stavo per dire. Bensì assolti in tribunale e anche assolti in tribunale. Sai chi ci ha denunciato per sostituzione di persona? No, signor questo. Casaleggio. Signor Casaleggio. No. Perché abbiamo fatto Casaleggio in un'imitazione chiamando. Il mio amico Gian Roberto. Sì, tuo amico. Che amico tuo, Casaleggio? Beh, sei diventato amico di Casaleggio? No, io lo conoscevo quando ancora, figurati, faceva il sito dell'Italia dei Valori. Ah, perché sì, lui ricordo, per un periodo, sì. Io l'ho conosciuto a Milano tipo tantissimi anni fa, e andai nel suo ufficio lì dietro al Duomo, forse ce l'ho ancora, mi regalò un libro che oggi mi dicono vale tantissimo, infatti lo metterò all'asta, perché non so proprio, si chiama Web Ergo Sum, e passammo un'ora in cui lui parlava a voce peraltro bassissima, mi ricordo io non capivo un cazzo, ogni tanto mi parlava degli avatar e mi diceva che voleva fare una realtà virtuale dove voleva creare un'isola, poi un'isola dell'Italia dei Valori. Come un'isola nel web, sì, devo ritrovare un'isola, era cioè, una specie di Pietro Second Life, che voleva bravo, fare? Un second, e mi diceva faremo una Second Life, diceva vuoi farlo anche tu, ma dico io non so Second Life, mi basta quella che vivo adesso. Un'ora in cui parlava a voce proprio pianissima, delle volte non sentivo, porgevo ancora di più l'orecchio, lui abbassava ancora di più la voce, e poi ho capito che lo fa perché dice che così la gente sta più attenta, perché è vero che se urli ti ascoltano meno, se invece abbassi la voce la gente tende ad ascoltarti di più. Dipende sempre da quello che dici. No, ma vale anche per i bambini, ad esempio. Comunque la cosa fondamentale è quella che ti dicevo, adesso mi hai fatto perdere il filo naturalmente, sì. Come al solito con questa deviazione. Casaleggio ci ha denunciato per sostituzione di persone. Io ho detto amico Casaleggio, però se l'è presa in quel posto, Allora Parla Razzi sui guai di Forza Italia, che chi se ne frega alla fine dei guai di Forza Italia. Se c'è una cosa di cui veramente non mi fotte nulla in questo periodo sono i guai di Forza Italia. Cioè non me ne frega assolutamente niente. c'è nulla. Berlusconi che pare che voglia cambiare simbolo, no? Che non voglia presentarsi col simbolo di Forza Italia, ma voglia rottamare tutto e voglia presentarsi alle comunali solo con liste civiche. Ma non me ne può fregare di meno. Comunque sentiamo Razzi, che ha sempre una sua, un suo perché. Ma c'è stato un po' di malessere, un mal di pancia, e che ce n'è ancora tutt'oggi. Io spero che questo mal di pancia passa e che possa nel 2016 riorganizzarsi alla grande, perché ne vale la pena per tutti gli abruzzesi che il centrodestra si uniscono compatti e che diciamo che sotterrano l'asce di guerra, perché non serve a nessuno. Hai capito qualcosa tu, Parezzo? Nulla. Poi il grande annuncio: l'ambasciatore della Corea del Sud sarà a Pescara a fine mese. Il 29 di gennaio ci sarà l'ambasciatore della Corea del Sud per far capire dove la capitale è Seul, e io spero che anche lì alla Camera di Commercio di Pescara possano partecipare tanti imprenditori che vogliono, diciamo, avere delle relazioni con la Corea del Sud. Vabbè ragazzi, andiamo a Bari. Gennaro, vai. Ragazzi, ciao ragazzi, un abbraccio particolare a Parenzo, che stimo tantissimo. Vi ringrazio di avermi mandato subito dopo Razzi, perché qualsiasi cazzata io possa dire adesso sarà una cosa intelligentissima. Beh, vediamo, vediamo, non è detto, non sia così, non si senta così superiore, non faccia il ce la metto tutta, ce la metto tutta, vediamo che succede. Niente, io volevo informare la nazione. La nazione. Che domani mi compro. Già hai detto una cazzata, dai. Vabbè, dai, vediamo di metterci allora in lì. Di comprerò un fucile a pallini per mettermi sul terrazzo di casa mia e sparare a tutti quelli che mi stanno sulle palle. Se quello che l'ha fatto, chi ha chiamato prima, lo fa per uccidere i piccioni che gli stanno sulle palle, io faccio lo stesso con chiunque passa sotto casa mia e mi rompe le palle. Vabbè, però non è la stessa cosa, scusami. Ascoltami, cioè, non è la stessa cosa, amico mio, dai, su. Sono perfettamente d'accordo, perché chi spara ai piccioni come a qualsiasi cosa che gli dia fastidio, qualsiasi cosa che non si può difendere, è uno che intanto non ha rispetto per la vita e poi è un vigliacco. Vabbè ragazzi, ma denunciatelo allora, fammi terminare il concetto, perché chi se la prende con chi non si può difendere, con chi è più debole, con i bambini, con gli animali o con qualcosa, con i vecchietti, con qualsiasi cosa sia più debole, è un vigliacco, uno che non ha coraggio di aggredire chi magari potrebbe difendergli e fargli il culo. Sì, e, no. se spara ai piccioni è perché non può sparare alle persone. Io la penso così e non penso di... cioè, questo si divertirà un po', gli stanno sulle palle i piccioni che magari sporcano casa sua, gli dà fastidio il rumore, gli dà fastidio il guano, se vuole un po' divertirsi, prende il fucile a pallini e ammazza 4-5 piccioni. Dà fastidio a tutti. I piccioni si moltiplicano, non c'è problema di... Sì, ma ripeto, non è che i piccioni a me piacciono. Ma no, ma io non lo farei mai, però... insomma... Non lo farei mai, perché ripeto, secondo me... Ma non perché non me ne frega niente, mica perché penso che il piccione è morto, non mi fa impressione. Cioè, non... Assolutamente, è il concetto di prendersela con chi è più debole, con chi non si può difendere. Vabbè, ma adesso armato. Che c'entra la debolezza, armato, tutte queste cose? Ma è così, cioè chi fa esplodere un gabbiano, quello si diverte in quel modo. Ma sì, ma anche quella è una puttanata, dai, su, cioè... È una puttanata enorme, quindi non è questione di essere animalisti, è questione di avere rispetto per la vita, o ce l'hai o non ce l'hai. Se ce l'hai non uccidi il piccione, non uccidi il gabbiano, non uccidi l'essere umano. Se non ce l'hai ammazzi chi ti capita. Sì, ma non è la stessa cosa tirare un pallino a un piccione o sparare dall'alto di una finestra una vecchietta in testa, perché ripeto, altrimenti le pene sarebbero uguali, invece sono diverse. Ci sarà un motivo, no? Se spari dalla tua finestra a una vecchietta sotto, una vecchietta per dire, no? Cioè così per divertirti, uno che va a fare la spesa, pum, a pallini in testa, e magari quella muore, e ammazzi un piccione, non ti danno gli stessi anni. No, mettiamo che ti beccano. Se ti beccano ammazzare un piccione, ci sono le leggi sul maltrattamento degli animali, sull'uccisione degli animali, e prendi gli anni. Non credo che vai in galera, può darsi pure che vai in galera, ma prendi un tot di anni. Se ammazzi uno, prendi molti più anni, perché le due cose sono diverse. Il concetto che io voglio esprimere è che chi spara al piccione e non alla vecchietta, non è perché non sparerebbe alla vecchietta, ma perché ha paura della galera. Ma sei capace di fare una cosa, è anche capace di fare l'altra. Quello può darsi. Stefano da Cuneo, ho capito, Gennaro. Stefano Cuneo, vai. Pronto? Dimmi Stefano. Sì, caro Cruciani. Allora, io volevo dire, premesso che non sono assolutamente un animalista, quindi mangio carne, sono a favore dei test sugli animali se serve a salvare uomini, eccetera, eccetera. ci ho premesso, questa è la mia teoria. Qual è la teoria? La mia teoria è che tu provochi gratuitamente i quelli che difendono gli animali e così godi nel cercare di provocarli, strizzi l'occhio a quelli che maltrattano gli animali. Ma io non strizzo l'occhio a nessuno, io dico quello che penso. Il cinghiale, sono andato a caccia. Il cinghiale. Non sono andato a caccia perché non potrei cacciare, non posso cacciare perché non ho la licenza di caccia. Ho partecipato, poi vedremo in che forma, ve lo racconterò, ad una battuta di caccia al cinghiale. Qual è il problema? Non ho capito. Io sono contro quelli che rompono i coglioni gratuitamente. Scusami, Cruciani, un secondo. Dimmi, scusami. Vado ad aprire un ospite che è arrivato perché manca. Sì. Chiedo scusa agli ascoltatori. No, ma che cosa fai? Che se ti assenti? Mi assento. Ma aspetta, per ma c'è la pubblicità. Nell'aprire la porta a un ospite che è stato chiuso fuori dalla radio del Sole 24 Ore, dovendo fare più ruoli in questa azienda. Cioè, fai anche il portiere. Dovendo aprire anche nell'azienda. Negli anni 60, sai che cosa avremmo fatto a questi signori? Avresti assunto quattro portieri. Assunto quattro portieri di cui nessuno avrebbe lavorato. Di questi quattro portieri, uno aveva la lunghia incarnita e non poteva muoversi. Un altro era falsamente zoppo, ma comunque assunti. Quattro portieri che non facevano un cazzo. Negli anni 60 i lavoratori cosiddetti, i sindacati, si faceva una mozione e si chiedeva ai sindacati chi aveva il dovere di aprire la porta. Dopodiché passavano quattro ore, quello che era fuori dalla porta si era rotto i coglioni e se n'era andato e avevi risolto il problema. Capito come funzionava? Funziona che quattro persone fanno un'assemblea. Ma adesso per non c'è decidere, nessuno, però. Adesso... nessuno è rimasta fuori la persona, stiamo decidendo chi deve andare a aprire la porta. Nel frattempo auspichiamo che noi seduti al nostro posto caldo, la persona che è fuori, che chiede di entrare, auspichiamo che se ne vada. Questo avveniva in questo caso 60. No, però. In questo caso noi non auspichiamo che se ne vada. In questo caso perché questa è la radio della Confindustria dove i padroni dettano ancora per oggi la legge. Vabbè, pubblicità. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocrate. La Zanzara. Siete incredibili, il mio vicino di casa, un rumeno che non riesce nemmeno a dire buongiorno in italiano, prima in macchina ascoltava la Zanzara. Siete universali. Ah, risentiamo Marchionne, vai. Marchionne sui giornalisti. Marchionne sui giornalisti e sulla ipotesi di scendere in politica. Io lo metto un gradino sotto De Luca, ma solo perché De Luca fa il politico, e Marchionne è, diciamo, un operativo. Ovviamente ha molto più potere Marchionne, molto più importante Marchionne, e muove più denaro e fa girare più il mondo Marchionne del mitologico De Luca. Però e che cosa vorrà fare dopo? E se vorrei fare il giornalista, questo l'ho detto più di una volta, perché mi piace il fatto che uno può fare domande senza mai essere responsabile per le risposte. Questo mi piace molto, cioè rompere le scatole agli altri. E poi le voglio chiedere, è una cosa che fate veramente bene, alcuni lo fanno con affetto, altri no, però come professione mi piace. Esclude di candidarsi in politica? Su questo fra 2000 anni non succederà mai. Grazie. Mai. Valsecchi? Mai. Se non sono stato chiaro, mai. Ma per quattro volte, Marchionne ripete mai. Tant'è che mi sembrava, Parenzo c'è o non c'è? Perché certo che c'è. Ah no, mi sembrava, te lo ricordi? Sono andato a recuperare l'ospite. Te lo ricordi il senatore Azzollini quando gli facemmo lo scherzo col Come Papa? Come no, certo. Sembrava il mai pronunciato dal senatore Azzollini di fronte al finto Papa. Mai, Santo Padre, mai ho pronunciato quella frase. La stessa cosa Marchionne, mai in politica, come se gli facesse schifo, no? Quelle merde dei politici, quello schifo che c'è, mai. E se non fossi chiaro, mai. Voglio tagliare i mai di Marchionne, bisogna tagliarli, mandarli di continuo, mai. Allora, fra poco un grande ospite che credo fra un paio di giorni ha convocato una conferenza stampa importantissima. molto importante. Che svelerà grandi cose. Alcune di queste cose può darsi, non lo so, vediamo, ce le svelerà questa sera. Intanto Donato, non si parlerà di baby doll e quant'altro, no, so che questa persona perché... che molti di voi avranno già intuito, quando tu hai detto baby doll, è stata molto contenta, perché in un'intervista recente, credo a un quotidiano britannico, non le hanno chiesto del baby doll, ma noi gliel'abbiamo già chiesto del baby doll. Qui se tu adesso mi inzighi con questa cosa, io glielo richiedo. Ho detto che se tu invece non me lo ricordavi, io già me l'avevo scordata questa cosa del baby doll. L'angioletto Cruciani, invece tu me l'hai ricordata, figurati, lui è un angelo e un puro omnia monda mondis, ricordo. Sono un angelo. Mi sa che c'è il tuo amico Donato da Varese, caro Parenzo, no. Sì, c'è il tuo amico Donato. Tutte, cioè qua questo 2016 Mauro Damanto, cioè, ce li eliminiamo. Mauro Damanto subito. Mauro Damanto l'hai domato. L'hai ormai domato con un'imitazione, devo dire, strepitosa, che lo ha messo KO quasi definitivamente. Purtroppo, sì, ormai non può più dire niente. Purtroppo, perché l'ho superato. Ce l'hai superato con la storia di che con le teorie complottistiche. Donato, vai, Donato. Salve a tutti, salve. Ciao Donato, dimmi. Salve, la merda che c'è a fianco. Sì. Vai Donato, ho sentito, in televisione. Donato. Guarda che io sono molto incazzato. Anche sì. Perché sei incazzato, Donato? Senti come parte basso quando i medicinali ancora fanno effetto. Io sono un incazzato. Senti no, la medicina. Aspetta, però, avviso a chi ascolta. Sì. Cari ascoltatori, ascoltate quando la medicina fa effetto, improvvisamente quando finisce. Ma perché devi dire che è medicina? No, ma io dico solo, ascoltate a chi ascolta. Stai zitto, cretino. Eccolo! Comincia già a finire l'effetto della medicina. Senti, sentite l'effetto già finito, perché la pillola dura pochi secondi. Lascialo parlare, però. Sì. Allora, quello scroto che c'è a fianco, finito, no? L'effetto, lui dovrebbe stare al mio posto, lo scroto, ma non so per quale situazioni strane, non so che cazzo, è finito l'effetto, lo stronzo sta lì. È finito, lui parla, viene scritturato per fare cosa? Pagato per cagare soltanto sugli italiani. Adesso di a questa merda infinita. Che cazzo pensi di quelle altre merde infinite di chi? Che hanno fatto partorire nel loro cervello il fatto che ogni italiano, se volesse, può ospitare in casa un profugo a 400 euro. Bellissimo. È l'iniziativa del comune di... È un orrore! Quando sono nato non ho mai sentito... Così. Che in qualsiasi governo di merda, che questi governi, compreso l'ultimo governo. Ma questo non è del governo, però ti voglio segnalare. È il comune di Milano. No, non so che non è il governo. Se l'assassino Renzi ritenesse questa cosa ingiusta, sempre Toni Paccati, moderati, sempre Toni tranquilli. Renzi è sempre il capostipite della mafia finanziaria. Ecco, è sempre il lurido figlio di puttana. Lo dico perché se io fossi un assassino, mi armerei e lo andrei a uccidere. No, questo è grave, quello che stai dicendo. Che butta nel baratro questa povera Italia. Ma come cosa voglio dire? Cioè, ormai è io voglio sapere di questa merda di San Benedetto, io voglio sapere perché non ci sono 400 euro per come si chiama il farmaco, gli italiani che non sanno dove andare a dormire, non sanno di che cazzo mangiare, sono in mezzo alla strada, perché nessuno pensa a questo e dobbiamo pensare a quei maledetti profughi di merda che non c'entrano un cazzo con questo paese, devono andare fuori dai coglioni, ma il fatto basaglia, perché sono tutti islamici. Guarda, quando ha intervistato quell'altro simpatico, ci sono diversi tipi di psicosi. Islamico, senti come abbassa la voce, è una psicosi tipica. Senti che tu, Cruciani, Giuseppe, hai richiesto a quel nostro nemico millenario, ma tu in Italia vuoi la sharia, ti ricordi che cazzo ti ha risposto? Che mi ha risposto? Ha travisato. Ha digressionato, si è messo a parlare delle puttane, delle zoccole, Una psicosi di origine organica. Però scusami Donato. Ecco, è una psicosi di origine organica, perché lo si sente anche dal tono della voce. Guarda, vedi? Aspetta. Lui non è lezzo. Senti il tono. Fattorisce dalla testa. Ecco. E di più E sono Lezzi tutti quelli che gli danno a lui adito di parlare. Adito però, scusami, Donato. È un fatto chimico, cioè le pastiglie servono proprio a regolare anche questi toni della voce. Scusami, Donato. No, che domanda vuoi fare? No, Donato. Cioè, si abbassa e si alza, capito? Notate questo, ascoltatori. No. Si chiama psicosi di origine non organica. Perché psicosi. Si devono dare non urla, perché non sono uno schizoide. E non ai italiani, quelli perché che non ho il disturbo bipolare. Voglio sapere perché. Scusami. Allora, dopo questo c'è la cosiddetta depressione psicotica, mi scrive un mio amico psichiatra. Fai sta schifoso. Vedi? Depressione psicotica. Scusami, Donato. Vedrai che adesso si abbassa. Scusami un attimo, ma io voglio dire una cosa. In realtà, anch'io sono contrario a questa cosa qui, però è volontaria, cioè non è che lo Stato dà. Se una famiglia chiede, una famiglia italiana vuole ospitare un profugo, per me... Così. Non farlo arrabbiare, non farti arrabbiare. Ma come non è così, Donato? Scusami, no, è così. Ma no, qui c'è una sorta di... è un po' subito la situazione, perché ci sono molte persone che purtroppo 400 euro al mese gli potrebbero fare piacere e allora? Facendo alloggiare questi sporchi profughi in casa. Sempre toni tranquilli. Prendete un italiano che è un barbone un po'... Probabilmente dicono di sì anche loro, probabilmente sarebbero anche più interessati. Sì. Perché il governo elargisce, sarebbero milioni di euro, per dare un alloggio a questi profughi, che non sono guerre loro, sunniti, Islam, Allah, sono guerre di merda loro, sono guerre di merda loro. Vabbè, che bisogna fare? Bisogna chiamare un medico subito, questo bisogna fare. Io vorrei un Mare Nostrum, con le ruote, se la presento una nave. Io vorrei un medicinale da somministrare. In tutte le zone povere d'Italia, con 1,5 miliardi che spende il porco Renzi, perché è sempre quel figlio di puttana, tu hai detto... quel maledetto Renzi che deve essere ucciso. Ma è pazzo! Ma fermatelo! 1,5 miliardi deve essere speso per gli italiani poveri, quelli che hanno costruito un paese, centaglia che deve essere, che non c'entra un cazzo con questo paese! Donato, scusami, hai detto una cosa grave. Uno può dire l'indirizzo in questa trasmissione è una trasmissione unica in Italia, perché uno veramente può dire quello che vuole. Ma però è pazzo, adesso però. Stai dicendo che tu uccideresti Renzi. Dai, basta, è pazzo. Ma come certo? Dai, no, Donato, dai. Se io fossi un assassino, io vorrei avere l'animo dell'assassino, quello sanguinante, per ammazzare Renzi, per evitare segnala tutto alla polizia. Renzi è un assassino! È un assassino! Vabbè, ho capito, però uno può dire un assassino in senso metaforico, ma non puoi dire... Quale metaforico? È malato questo qua. Renzi, già quando elargì 80 euro a quelli che avevano una busta paga, già quella è un'operazione assassina. Vabbè, d'accordo, uno può dire un assassino in senso... Io quando devo aiutare una persona, se mi si presentano due italiani, uno che ha uno stipendio e un altro che non c'ha un cazzo, io gli 80 euro li do a quello che non c'ha un cazzo! Vabbè, ma questo... è un assassino! Basta! Donato, però. Basta, cos'è anche uno... Giannino adesso? Ma è impazzito, dai. Però, poverino, ma non è in sé. Scusami, Donato, tu però. Tu sei impazzito. Non è in sé. Perché conosce l'Asti, fanno fare televisioni. Per fare non che cosa? Sei per sei. Dare cosa agli italiani? Non per offrire cosa sul piatto? Cosa vuoi offrire tu? Ma non è che uno fa televisione per offrire qualcosa sul piatto. Pazzo, dai. Però, scusami, Donato. Adesso, sto parlando di lui come ma tu sei armato? Tu sei armato? Ma forniamo il numero alla questura. Sei armato tu? Sei armato? No. Non ho hai ho capito, però ma vorrei impossessarmi di qualcuno per ammazzare Renzi. Non peggiorare la situazione, vuoi impossessarti di un'arma per uccidere Renzi? Non mi interessa un cazzo andare in galera. Vai in galera un uomo che ha detto che Renzi è un assassino. Io ti porto le prove che Renzi è un assassino. Vabbè, d'accordo, le prove, quello che vuoi. Però tu non puoi dire voglio ammazzare Renzi e addirittura prenderei un'arma a qualcuno per ammazzare Renzi. Ma è una cosa gravissima. Io non voglio che nessuno l'ammazzi. Ho detto che vorrei ammazzarlo io. Non voglio mandare in galera nessuno. Non voglio che nessuno vada in rischio. Io voglio rischiare. Però vorrei avere il sentimento di tipico assassino per riuscire ad ammazzare. E vedrai l'Italia come si salverà. Si ferma Mare Nostrum per importare i sunniti, si dà questo un miliardo e mezzo ai poveri italiani che stanno morendo di fame, si mandano via sti profughi del cazzo che non c'entrano un cazzo, perché fanno loro sono sotto le guerre di religione, sono guerre di merda, loro! Io voglio pensare agli italiani che non hanno fatto. Ma questo provvedimento cos'era? L'orrore? Com'era l'orrore? Il provvedimento dei 400 euro di Pisapia? Di fare ospitare. Chi ospita? Un profugo da 400 euro. Ma allora perché ci sono a Milano più di 1,000 italiani in mezzo alla strada? Ma perché non dice 1,000 italiani che ospito 1,000 italiani? Qua siamo nella rovina! Siamo nella rovina, ma io non sto gridando perché voglio fare scena, perché io già sono un artista anche se non urlo. Io sono un grande artista anche se parlo piano. Non voglio fare un cazzo. Siamo nella rovina. Vabbè. Dammi 5 minuti che cambierò l'Italia, dalla testa ai piedi. La radico. Incomincio dalla Corte Costituzionale. Quei porci maledetti che guadagnano 3 volte quelli della Corte Costituzionale inglese. Quei maledetti lestofanti. Quei farabutti schifosi. La Corte Costituzionale. Ora, noi abbiamo tanti problemi. Già, io e Parenzo abbiamo tanti problemi. Ma no, ma questo poverino sta male. Adesso anche la Corte Costituzionale. Pure Renzi, certo, che vuoi ammazzare. Che cazzo serve sta Corte Costituzionale? No, io per carità. Sta Corte Costituzionale. Che cazzo? Io ci cago sopra la Corte Costituzionale. Pazzo, ma le vuoi finire? La Corte Costituzionale è vero che è uno scandalo. Che i soldi... cazzo servono ste cose? È tutta una sporcizia, credetemi. È una sporcizia. Tu vuoi ribaltare l'Italia in 5 minuti? Ribalti tutto. Vabbè, no, Donato, ma lui ha passato delle feste terribili. Donato. Vai a attaccare gli esodati. Ma vai dall'alto. Oggi sei carico, aspetta, sei carico. Ciao. Oh. Allora, caro Parenzo, chi c'è accanto a te, caro Parenzo? La mia ospite, nostra ospite, era entrata, ci ha salutato, si è seduta, ha cominciato ad ascoltare questa telefonata. Non ci voleva credere, si è tolta le cuffie inorridita dalle parole dell'irenico, dell'uomo di pace, Donato Varese. Una degli ascoltatori della Zanzara, non è che... E mi ha chiesto, è vero, ho detto, è drammaticamente... Ma certo che è vero, tutto no, vero. Ho detto, è drammaticamente... Comunque saluta la Francesca Immacolata, ciao. Buonasera. Anche vicino a me perché non c'è il microfono collegato. Non c'è il microfono collegato? Perché ho parlato con i sindacati e abbiamo trovato il modo di scollegare tutti quanti i microfoni. Cioè, avete scollegato i microfoni? Voi sindacati della sinistra? Abbiamo discusso a lungo e alla fine la trasmissione è cominciata e il microfono non funzionava. Ma facciamo buonasera, signora Ciauchi. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Contenta. Contenta di che? Perché è incinta. La gravidanza come va? Procede. Non pronuncerò la parola baby doll, Non pronuncerò la parola baby doll. Stasera che volevo dirti qual era il mio abbigliamento, però ormai ha detto che non lo dice, quindi pazienza. No, è perso il treno. No, che ho perso il treno. È Parenzo che mi dice non dire, ma basta con questa storia del baby doll. No, perché ho letto che, cara Immacolata, diamoci da tu. Nessuno la chiama Immacolata. Come Francesca, sì. Francesca. Io la chiamo Immacolata. Invece mi piace di più Immacolata. Francesca è, diciamo, nome comune. Immacolata è più bello. Immacolata. Ho letto che in questa intervista ti ha fatto commuovere perché non ha mai pronunciato la parola baby doll un giornalista inglese. Cioè, uno che non ha mai pronunciato la parola baby doll. Noi italiani, siamo dei poveri stronzi perché insistiamo su queste cose qua. Questo allora, lui dire. Mi ha fatto commuovere perché mi ha chiesto che cosa farò quando sarò in carcere, cosa racconterò a mio figlio quando mi chiederà dove è nato. Ma perché tu pensi di partorire in carcere? Non ho capito. Ma io ne sono certo, io ho la certezza. Tu sei certa che partorirai in carcere? Assolutamente sì. Cioè, perché quando è che verrai ammanettata? Quando è che andrai in galera? No, non verrò ammanettata, sarò io stessa che comunque non avendo rifiutato guarda, allora, potrei non partorire in carcere perché potrei fare appello e quindi chiaramente l'appello si prolungherà. Però tu dici che ti vuoi consegnare, non fai appello. Farò appello perché non ha senso fare appello a un tribunale che comunque è un tribunale politico, quindi non ha nessun senso. Ah, è un tribunale politico, Qui non stiamo cercando la verità, qui stiamo cercando... No, ma che sei su un tribunale politico? È il tribunale della Santa Sede, non politico. Allora sicuramente il tribunale non ha nessuna intenzione di valutare la verità, perché sennò non avrebbe dovuto nemmeno convalidare l'arresto. Per cui è un tribunale politico in cui c'è già una sentenza preconfezionata. Secondo me sì. Cioè contro di te e contro, evidentemente, anche contro i giornalisti. Che fine faranno? Verranno condannati o no? Secondo I te? Giornalisti non credo che verranno condannati. Soltanto lei pagherà, il signor Balda. Balda ha confessato, quindi Balda è normale, insomma, che comunque si prendano dei provvedimenti contro di lui. Come sarebbe normale se io fossi colpevole, sì. Comunque di... Che, insomma, una condanna dovrei procedere nei miei confronti. Sì. Però poiché comunque io... Ma quanto ti daranno, Immacolata, quanto ti daranno? Io credo un paio d'anni. Un paio d'anni. E dunque tu non farai appello e molto probabilmente partorirai in carcere. La cosa che tipo di emozione ti provoca questa cosa qui? Sei contenta di partorire in carcere? Beh, sinceramente no, chiaramente no. E che ne so, uno magari per provare il brivido di una... C'è gente che partorisce in casa, c'è gente che partorisce negli ospedali, c'è gente che partorisce nell'acqua, invece io partorisco in carcere. Ma lei pensa davvero che la Santa Sede, come dire, si sottoponga a questa barbarie? Ma allora, io Beh, sarebbe una barbarie, d'accordo con me? Cioè, una donna incinta fatta partorire... Ci sono tante... Per una questione di coerenza io me lo auguro, ma soprattutto di credibilità di quel tribunale, perché quel tribunale sarà quello che un giorno, mi auguro, decida di giudicare anche le persone che rubano in Vaticano, perché comunque tutto quello che la Commissione ha scoperto, tutto quello che comunque sono stati gli illeciti che sono stati perpetrati, non sono stati mai perseguiti. No, perché su una cosa devo dire ha ragione la Chouki, che oggi chiamerò Immacolata. Su una cosa ha ragione Immacolata, che è quella che sta subendo un processo è lei, mentre ci sono ladri, truffatori dentro il Vaticano, come è stato dimostrato, che invece non mi sembra che sia iniziato un processo nei loro confronti. Su questo non c'è dubbio, né un processo normale e men che meno un processo mediatico come quello che ho subito io. Quindi sostanzialmente, se allora quello Stato deve avere un minimo di credibilità dopo questa vicenda, allora quantomeno mi auguro che si assumano la responsabilità, visto quello che mi hanno fatto subire, di eseguire la pena. Se loro sono convinti che io sia colpevole, almeno che comunque si assumano per dignità la responsabilità di condurmi in carcere. Io non mi sottrarrò sicuramente. Ma lei le conosce le carceri vaticane? No, io non ho mai visto le carceri vaticane, no. Chissà che posti sono, Parenzo, secondo te, le carceri vaticane? Ma sarà un posto normalissimo, sarà... Guarda, allora... Ma non sarà una casa. Non credo che sarà Regina Coeli, non credo che sarà Luciardone. Allora, per quello che mi hanno riferito, so che le celle rispettano gli standard europei sulla detenzione, quindi sicuramente ci sarà, insomma, non so, una cella normale come qualsiasi cella che si possa trovare. Sì, ma non ci sarà il casino che c'è in Italia, sovrappopolazione. No, perché sarei l'unica detenuta. Perché oggi non c'è nessuno. No, nessuno. Balda c'è. E agli arresti domiciliari. È domiciliare. Beh, sarebbe incredibile. La Chouki in galera, nella galera vaticana, e Balda magari in convento. Ma pure Balda andrà in galera. Attenzione. Balda andrà in galera, pure lui. Sì. Ma Balda chiederà la grazia, quindi sicuramente, insomma, farà diversamente rispetto a me. E comunque suppongo si appellerà. Insomma, non credo che comunque i miei metodi saranno i suoi. Io invece ho scelto. Ma come funziona? Se uno deve partorire in carcere, come funziona? Ci sarà. Ti stai già attrezzando. Tra quanto avverrà? Tra 5 mesi, 6 mesi? Di quanto sei incinta? A luglio. Parte previsto a luglio, Sì. Parte previsto a luglio, dunque se la sentenza viene emessa, beh sì, ci siamo. Effettivamente a luglio potresti stare in galera, Se oggi dovessi scommettere, secondo me non accadrà. Se dovessi fare oggi una scommessa, ma allora vi racconto: ci saranno i bookmaker inglesi. Ma lei farà la conferenza stampa dopo domani, no? Dopo la Befana, in cui dirà che è pronto ad andare in carcere. Che dirà? Questo ormai l'ho detto. Allora, questa conferenza ha due scopi. Allora, il primo scopo, perché comunque stava dicendo una cosa. Vi racconto che cosa? Appunto, questo. Stavo dicendo che cosa dirò alla conferenza stampa. C'è una cosa di tutto questo che non manda da giù in quello che hanno raccontato al Santo Padre. Allora, in questo processo, la vittoria delle persone che volevano questo processo è avvenuta in un istante preciso, che è quello lì, nel momento in cui Bergoglio ha pronunciato la frase «sono stati commessi degli errori». Quella frase là ha significato, per chi non era stato coinvolto nella scelta delle persone che avrebbero dovuto far parte della commissione, la vittoria dopo 2 anni. La seconda parte dice... con quella frase che... la tua condanna è stata sancita da quella frase? Non ho capito. No, la vittoria di chi ha sempre ostacolato i lavori della commissione... Cioè la vittoria degli zozzoni, io quella che chiamo, la vittoria dei ladri, chiamiamola così. Ma nemmeno dei ladri, di quelle persone che comunque avrebbero voluto avere un ruolo all'interno della scelta. Cioè con quella frase il Papa ha sdoganato i ladri, sostanzialmente. No, con quella frase il Papa ha ammesso di aver commesso un errore nel nominarci senza la burocrazia vaticana. La frase. Fatto questo, per loro la vittoria è già ottenuta, quindi quello che succede nelle nostre esistenze sostanzialmente non interessa più a nessuno. Cioè, neanche al Papa? Il Papa se ne frega ormai della sorte della Chouki e di Baldani. Allora io credo proprio di no. Il Santo Padre non se ne frega, anzi tutt'altro. Da quello che so che proprio in queste ore il Santo Padre si sta domandando, perché io sono stata arrestata su 2 principi fondamentali. Allora, sono andata dal Santo Padre dicendo: Santità, ci sono delle prove schiaccianti, è incinta, ma sono talmente tanto schiaccianti che questa persona va arrestata. Va arrestata perché ci sono dei pericoli per la Santa Sede, perché comunque allora... chiaramente eccetera, e quindi Santo Padre ha detto chiaramente procedete. Oggi ci troviamo che io sono andata sulle televisioni e sui giornali di mezzo mondo a sostenere che prove non ce ne stanno, quel fascicolo che è a disposizione dei magistrati, e se Santo Padre lo chiedesse anche sua. Cioè tu che stai chiedendo al Papa, guarda il fascicolo. No, il Papa, se lo conosco bene, il fascicolo già se l'è fatto portare. Cioè il Papa si è reso conto che non ci sono prove. Certamente, perché se si è visto il fascicolo, credo che comunque... E dunque che farà? E perché non fa nulla, però? Non fa nulla perché fa fare per due ragioni, secondo me. Allora, la prima è che comunque all'interno di quel processo è imputata una persona che è un funzionario della Santa Sede, che invece quei reati l'ha commesso. Ma siamo sicuri che manderà alla fine a farti arrestare le guardie svizzere o quello che è? Cioè... No, non ci avrà bisogno di farmi arrestare. Che ti consegnerai tu? È una cosa che comunque non dipende da lui e nel quale io non voglio investire lui. Vabbè, ma che rivelazioni devi fare a questa conferenza stampa? Siccome l'hai convocata in pompa magna. La seconda cosa che racconterò, leggerò durante la conferenza stampa le email che provano che non solo io non ero arrabbiata con il Santo Padre come mi è stato detto perché non avevo ricevuto una nomina nei nuovi organismi, ma tutt'altro, ero io stessa a sostenere che nessuno della commissione avrebbe avuto avere dei ruoli, invece 5 persone della commissione siedono al Consiglio dell'Economia e una persona addirittura presiede lo IOR. Quindi praticamente la commissione è stata fatta per creare i posti per poi dopo andarsi ad inserire, cosa che io comunque non avevo intenzione di fare e non ho fatto. Io non ho mai preso un centesimo dalla Santa Sede. Quindi queste mail che lei leggerà dimostrano esattamente che non c'era nessun suo interesse a avere nuovi ruoli, mentre altri ruoli hanno. Ma qual è l'ultima volta che hai sentito il Papa? Quando è stata? L'ultima volta che ho sentito il Papa, che ho sentito al telefono, io non ho mai sentito il Papa al telefono. Mai sentito il Papa al telefono? No, mai sentito il Papa al telefono. Ma ce l'hai il numero del telefonino? Non ce l'ha il telefonino il Santo Padre. Ma come no? Dice che ce l'ha. Marino dice che gli rompeva i coglioni col telefonino. È una grande cavolata. Ho capito. Sembra. Il Santo Padre non è, no, invece è interessante, oltre al telefonino, un'altra cosa. Mentre parlavi di Marchionne, la signora Francesca Magalotto Ciauchi ha sorriso. Perché ha sorriso? Marchionne è un grande. Ma mica lo conosce Marchionne? Sì, lo conosco. Anche Marchionne? Lo conosco perché Marchionne, e questa cosa la sanno pochi in Italia, Marchionne presiede un club importantissimo che si chiama Consiglio per le Relazioni Italia-Stati Uniti. Che si riunisce due volte all'anno, una a Washington, una volta a Washington e chi c'è del Vaticano? Una volta a Venezia. Sarà un covo di complottisti. Non c'entra nulla, questo, no, nel modo più assoluto. E guarda, è una delle poche occasioni in Italia di un confronto geopolitico importante. In questa occasione c'è Marchionne e più volte ho avuto modo di incontrarlo durante questo. Sempre questo per la serie. È una sorta di... Conosco i metalmeccanici. Sì. È una sorta di come voglio dire, di Bilderberg italiano, però. Appunto. Ecco, bello, bellissimo il Bilderberg, mi piace molto. No, io dico niente. E allora? Certo, c'è Monti che era un po' incazzato con me, però pazienza. Ah, Monti arrabbiato con lei. Monti... No, ma quindi Marchionne? No, Marchionne è un gran figo. Se si candidasse in politica, sarebbe il governatore dell'Italia, sarebbe eccezionale. Beh, certo, avrebbe necessità comunque di un comunicatore, di qualcuno insomma che gli spiega. Ma che comunicatore? Comunque... Fa tutto lui. No. Delle cose vanno cambiate. Vanno cambiate, cioè il maglione va cambiato. Il maglione sì, cioè, vi prego, il maglione non è orrendo, dice. È una cosa non possiamo andare avanti con questo maglione, no. Vabbè, ho capito, ma sta per andare in galera in Vaticano da lezione a zio Marchionne. Cioè, gli hai chiesto parere, scusa. No, per carità, va bene tutto. Ma sei forte anche tu, chiedi un parere. Era, ingiustamente, ma comunque questo non toglie che io resti. No, ma comunque, io non credo con il lavoro che faccio. No, ma si capisce. A proposito, ma siccome tutti dicono che uno nel futuro cosa vuole fare? Mettiamo che questa storia finisca, tra un po' finirà sicuramente. Sì. Ma lei nel futuro cosa vuole? Cosa le piacerebbe fare? La zanzara in Vaticano. Fare quello che... Vabbè, no, chiedo, magari, le pubbliche relazioni, però una cosa in particolare, che cosa vuoi fare? Lavoro. Cosa vorresti fare? Un sogno che c'hai nella vita, che c'hai? Un sogno? No, i sogni li ho realizzati quasi tutti. Il lavoro che volevo fare lo faccio. E quindi già quello, ecco. Qualcuno dice maliziosamente farà l'isola dei famosi la signora Ciauchi. Chi lo dice può andare a quel paese grandemente. Qualcuno veramente mi ha detto, vedrai che la Ciauchi andrà al paese. Lei non farà all'isola dei famosi. Sì, certo. Ci andresti all'isola dei famosi? Ma per favore, ma per carità, no? Ma non ho nessun con tutto. Pare che ci vada anche la signora Efe Ball all'isola dei famosi. Vabbè, ho capito, ma che c'entra Efe Ball con la signora Ciauchi? Adesso che c'hai contro i transessuali, Francesco? No! Per l'amor di Dio. Sono figli di Dio anche loro, no? Mica avrei qualcosa contro gli omosessuali pure. Io mai, assolutamente. Però qualcosa contro l'utero in affitto e le stepchild adoption ce l'ho. No, ma per carità, ma perché? Vabbè. Dai, su. No, storia lunga. Ma che fai, vabbè. La sentinella in piedi pure te? No, non faccio la sentinella in piedi, però comunque, insomma, io direi che su questo tema mi ha fatto una riflessione approfondita. E spero proprio che Renzi, insomma, non utilizzi questa questione delle unioni civili come passaporto per sdoganare... Ma la stessa posizione di Adinolfi. Vabbè, per forza, ha scritto anche per il giornale di Adinolfi. Lo so, lo so. Ma si conosce il sesso di tuo figlio? Sì, è maschio. Oh! È maschio. Finalmente si sa, eh? È maschio. La signora Ciauchi annuncia Urbi e Torbi che avrà un figlio maschio. Se un Dio figlio vuole. Maschio. Vabbè, sì, oh, ragazzi, se Dio vuole, che deve succedere? No, vabbè, si dice sempre, beh, chi crede... Beh, nasce in Vaticano Pietro, magari. Come si chiamerà? Pietro. Con Pietro? Pietro, sì. Pietro, certo. Pietro detto l'altra... nasce in Vaticano. Ragazzi, io me ne posso pure andare oggi, dai, me ne vado. Pubblicità. Ma qui è tutto un casino, che siamo... Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere. Per... La Zanzara. Mai. Grazie. Mai. Valsecchi. Mai. Marchionne, vuoi andare in politica? Mai. Grazie. Mai. Valsecchi. Mai. Allora, però devo dire, nostra ospite oggi, come altre volte, la signora Francesca Immacolata Ciauchi, cosiddetta papessa, oppure anche corvo del Vaticano, è certa, come ci ha detto, di essere condannata magari a 2 anni, qualcosa del genere, dice che sconterà la pena nelle prigioni vaticane, ci ha appena detto che aspetta un maschio e siamo tutti contenti, che si chiamerà Pietro e forse nascerà appunto dentro le carceri del papato, sì, sì. Del papato. Ha detto però una cosa interessante, al di là di queste piccole notizie che sono comunque sempre importanti, perché noi i personaggi vogliamo conoscere anche nelle loro cose intime. Non le chiederò ancora una volta se ha mai indossato un baby doll in vita sua. Anche perché se l'è andata, salutata, se l'è andata. Come se l'è andata? La volevi ancora? Ma sì, certo. Ah, è andata via. Ma come è andata via? Essere incoglionito. Ma hai detto posso andare, se l'è andata. Ma la richiamo. Ma richiamala un attimo. Un momento, convochiamo i sindacati per capire se si. Ma c'è la pubblicità, scemo forte. Ma mai detto basta, ma me ne posso andare. Tu pensavo non la volessi più. Ma in chi genere. L'ha detto? Chi? Ma chi lo... che l'ho pazzo, salutata? È veramente un pazzo, cioè, no? Non è normale. Aspetta. Ma non sei normale, ma nessuno ha detto che. Io penso normale. Io. Ma la chiami un attimo, ma sei impazzito? Aspetta che è uscita, chiamo un attimo i sindacati per capire se si riesce a convocare la signora. Incredibile, guarda. Ma nessuno ha mai pensato che se ne fosse andata. Nessuno, ma è completamente impazzito. Marco da Roma, dai. Vai Marco. Cruciani. Dimmi. Qui siamo ciao, veramente Luigi. Al delirio totale, cioè siamo veramente al delirio più totale. Va bene che uno può fare quello che vuole, però insomma nessuno ha pensato di che fosse finito. C'era un altro paio di domande da fare. Marco da Roma, dai. Vabbè dai, capita, cruciante rabbia. Sì, ma no, ma siamo alla follia totale. Cioè. Io volevo renderti partecipe in questi piccoli 5 minuti di una tecnica per aumentare l'eiaculatio, quadruplicarlo quasi. È molto molto molto rara e non è proprio così difficile, è una cosa semplice in realtà. Scusa, non ho capito come ti viene fuori questa cosa, il metodo per eiaculare in modo più potente, scusa, come ti viene fuori? Ah, se vuoi sentire un dio lo devi conoscere per forza, perché quando accade poi è veramente una goduria. E me l'ha detta un amico mio in gioventù questa cosa, me l'ha ripetuta una escort una volta che andai a trovare escort a Roma, mi disse che esisteva questa tecnica e l'ho provata con la mia ragazza qualche mese fa. Parenzo, come siamo agli accordi là? Stai richiamando per caso? Ma certo, ma è giù, aspetta che la... Ma roba incredibile, ma mai successo, cioè, di solito saluto, arrivederci, buonasera, vabbè, no, torniamo. Marco da Roma, ma sei completamente pazzo, cioè Marco da Roma è completamente ma io l'ho salutata forse? Cioè l'ho salutata? No, comunque Cruciani ha detto, sei un personaggio pazzesco. Dopo questa posso mandare anche l'obbligo di tutto finito. Ma ho capito che era un modo di dire, dai! No, non è cazzata, ti do ragione. Ma dai, su, era talmente chiaro, Marco da Roma, dai. Non è ancora comunque, richiamato Marco da Roma, dai. Comunque, Cruciato, questo metodo è molto semplice, molto odioso, così attacco. E, stavo con la ragazza mia, mi stava masturbando a fine rapporto e ho appoggiato, diciamo, un pentolino con l'acqua calda, tiepida. No, spiegami, questo qua è il metodo per eiaculare in maniera più potente. Ma spiegamelo bene, perché voglio capirlo, voglio capirlo. Lo spiego bene, inizi a fare sesso normalmente, come tutte le altre volte. Ma è questo, d'accordo. Poi? Ok. Quando vieni, ti alzi in piedi, ovviamente ci deve essere un ripiano, ci deve essere altezza del tuo bacino, no? Ma un tavolo prendi, prendi un pentolino normale dove cuoci il latte e ci metti un po' d'acqua calda, ci metti circa 25-30 gradi. Quando inizi a avvertire che stai per arrivare, ti immergi dentro i coglioni, ti immergi dentro, allora ragazzo ovviamente ti masturba intanto, e ti assicuro, Crucia, che ti tremeranno le gambe, come so tremato a me, sono finito sulla sedia, sono finito, per quanto mi sono sentito svuotato e felice. Niente, solo questo, provaci quando ce ne morti, tanto queste porcate le fai. Ma no, ma chi te l'ha detto che le faccio? Cioè, non, ma già, ma t'ascolto da 3 anni, cazzo. Ma non è vero, fai? Ma non è detto. Ma non farò mai queste cose qui artificiali per creare una cosa più potente. Ma sei impazzito? Ma scusa, ma quando vieni te verrà un po' di scompenso. Comunque a 50 anni. E allora? Cioè, questa, e allora? No? Allora? Questa qua ti dà una mano e veramente fai proprio colpo. Fai. Io, fai conto, l'ho inondata. Gli veniva da vomitare, ragazza mia. Ah, no, Parenzo? Intervieni tu, Davide, per favore. Dai, approva a Davide, tu devi andare su Xvideos ogni tanto, scrive transgender, threesome, tutte queste porcate, perché non ne conosci una. Io sono Cruciani, devo ascoltare e ci dammi un po'. Vabbè, tu adesso, sei proprio la Madonna. Sei messo veramente male. Scusa, Michele da Roma, vai. Sì, Michele da Roma, dai. Sì, ciao ragazzi. Dimmi, a parte dimmi. Chiamatela al cellulare. La bomba, la potenza nell'eiaculazio, che però non ho capito se il tegamino lo metti prima o dopo, perché se lo metti prima ti raffredda. Vabbè. Però ho sentito la telefonata di prima, di un po' di Donato, eccetera. Ragazzi, può mandare in onda sta roba? In che senso? Dai, cioè, ma un pazzo scatenato, ma questo è da TSO, da denuncia. È Donato, da Varese? No, è Donato, ma ho capito, è da ricoverare. No, raga, ma forte. Sta male, ma è peggiorato, stava male, stava veramente. Non lo conosco, non lo vorrei mai conoscere. Ma neanche io però lo conosco, mai visto mandare, prima. A parte le cazzate in monte dette, ma babbo, da una persona che sta fuori di testa, non è che mi aspetto discorsi lucidi. Però, cioè, dovete troncare le telefonate, chiuderle. Ma io ancora, troncare le telefonate? Ma... Che vuol dire troncare ma le telefonate? Sì, raga, Donato è un... un vecchio guest di questa trasmissione, uno che interviene ogni tanto. Ho capito, ma qual è il punto? Non ho capito, dov'è che dovevamo troncarla? Quando ha detto che voleva ammazzare Renzi? No, ammazzare Renzi, questi immigrati che se ne devono andare a fare in culo perché sono tutti islamisti. Vabbè, ma non mi sembra molto diverso rispetto a... Allora, c'è una sola cosa nuova, quella cosa lì di Renzi, di Renzi da ammazzare. Il resto l'ha sempre detto, eh? Cioè, a me è capitato stavolta di sentirlo e mi sono abbastanza sconcertato, per cui niente, questo volevo dirvi. Secondo me non si mandano in onda ste robe, sono anche pericolose. Ma che pericolose? Ma quando mai? Cioè, se qualcuno reputa pericoloso e denunciassero, facessero indagini, prendessero, che c'è? Si dovrebbero denunciarlo. Sì. Cioè, ma no, ma che denunciarlo? Ma dai, su. Ma per il suo bene, per la sua salute, perché è pazzo, dai. Dai, ma che c'entra pazzo, dai? Che no, cosa è normale. Non ho capito che cosa volevi dire a Donato, Michele. No, io lo volevo dire a voi, raga, non possono andare in onda se telefonate. A una persona come Donato non dire niente, per carità, me ne guardo bene. Perché? Vabbè, capito, vuole ammazzare Renzi, penso si va a dire che è un pazzo scatenato, mi chionda sotto casa. No, ecco, adesso te lo fa. Frecce sotto casa. No, eccolo qui, diglielo in faccia. Donato? Ma che cazzo devo dire? Ma cosa devo dire? No, Michele, rispondi a Michele. Ma cosa devo dire? Io non ho detto che voglio ammazzare Renzi, ho detto che vorrei avere il coraggio di uccidere, perché Renzi va eliminato. Ho capito, è la stessa cosa però. Ancora. Ma questo qui che poi entra in radio a dire che avete fatto male a far parlare Donato. Ma tu questo coglione lo sa quante decine di migliaia di persone che mi vogliono ascoltare, che sono dalla mia parte. Io sono dalla parte degli italiani poveri, degli italiani che non hanno voce nemmeno sulla carta igienica. Ma digli a questo stronzo, tra virgolette, non lo voglio offendere, questo qua deve lottare per questa Italia, questa Italia le decine ci vogliono, questa Italia da difendere. Diglielo a questo pezzo di merda, siamo finiti. Che cazzo sono queste navi che arrivano, tutta sta gente, 1,5 miliardi, arrivano nelle case, ammazzano, no, uccidono, lo Stato tira fuori i soldi, ragazzi, ma dove cazzo avete messo il mondo? È peggiorata la situazione, non sono peggiorate, io te lo posso dire anche con calma, poi lo so, stronzo maledetto, non lo so che nel calma. Privato mi diresti certamente che io sei sono bravo, pazzo, dico cose sei. Giuste, è ma giù non lo dirò mai, è ma sei così. Un pazzo sei, dobbiamo scardinare, dobbiamo pagarti un no, medico, come facciamo quel porco di Grillo, ma no, dobbiamo pagarti un medico, bisogna che c'entra Grillo bisogna... perché Grillo parlava poi si è portato nel suo gruppo tutta una marea di sporchi comunisti di merda, comunista, con quel cretino di Battista che lui pensa agli immigrati, li pensa ci sono i negretti, oh, poi con quell'altro lì, quell'altra merda lì, Giobbe Covatto, quel figlio di puttana, ma che c'entra Giobbe, i negretti in braccio, ma che si prendesse un figlio di una povera napoletana, che ma l'unica speranza è che gli venga un infarto in scusa 40, ma che c'entra Giobbe Covatto, spiegami, che c'entra Giobbe Covatto, è un altro corrioto comunista. Ma Giobbe Covatta no. È uno che fa. No, come perché dire, è diventato però, sì, lo so. Un pezzo di merda. Ma che pazzo, c'entra Giobbe Covatta? Ma è un povero malato mente. Non difende me, non difende i miei figli. Deve essere eliminato anche lui. Bisogna difendere i nostri figli, noi dobbiamo... Ma guarda, allora, che... Ma ha dei parenti questo qua? Tu che lo conosci, Cruciani, ha dei parenti questo qua? Ma chiamateli però, chiamate i parenti. Quello è un padre giusto. Noi, il nostro governo che pensa ai cazzi degli altri, delle guerre di merda che fanno per il loro Dio. È impazzito. Allora, però, voglio dire una cosa. No, ma ha dei parenti, signor... tu che lo conosci, lo sì, frequenti. Sì, sì, come no, certo. Ecco, allora, poi tu che sei il suo amico, mi pare di aver capito di no, questo adesso, povero pazzo. Sì, lo conosco, sì, certo. Sì, ma lo conosco, sei un amico di questo ma povero miserabile idee, pazzo. Ma miserabile, no, non ha le sue... pazzo, è un donna, miserabile no? Malato di mente. Ma va rispettato, sei perché tu, figlio di puttana. Va rispettato perché è un malato. Figlio di puttana. Allora, sei tu, voglio dire, di allora sembra va rispettato troia, perché è un malato. Ti faccio vedere allora, io che è malato di mente. Va chiamata la famiglia. Va chiamata la sua famiglia. E va allertata. Aspetta, che fa gli spurghi. Che c'entra gli spurghi? Adesso che c'entrano gli spurghi? Scusa. Perché lui sta sempre nella nomenclatura della sinistra, quella alta. No, ma tu che sei va un povero pazzo. Di De Benedetti a quell'altro stronzo maledetto, come si guarda, chiama? Guarda, questa credo che sarà la sua ultima apparizione qui. Perché dopo questo qualcuno sicuramente lo andrà a prendere Aspetto a casa. Tutto. Aspetto non ti preoccupare, tutto. Che Mezzo Italia sta con me, coglione! Mezzo Italia sta con me! I punti di Mezzo Italia sta con me. È uno psicotico. Con allora, gli psicotici è pericoloso giocare con gli psicotici. Però c'era più pericoloso per il male che fai agli italiani. Vergognati. C'era Michele con faccia brutta che hai. C'era Michele da Roma che però Michele ha parlato a Roger Moore. Io volevo solo dire una roba, che se sa che lavoro per una ONG. Aspetta, però parla meglio tu, Michele. No, gli dico se il tipo lì Donato sa che lavoro per una ONG, me lo trovo sotto casa e mi ammazza. Ma no, ONG quale? Cioè tu lavori per queste ONG? Per una grossa ONG, vabbè. ONG che no, fanno solidarietà al terzo mondo, queste robe qui, sì, in Africa. Sì, sono un operatore umanitario, sì. Ah, sì, Donato, sì. Come consideri gli operatori umanitari? Uno schifo! Bisogna essere prima cosa operatori di italiani. Italiani poveri. Donato, andate nel sud, c'è un mezzo milione di ragazze che devono contare i centesimi in tasca, vergogna a questa gente, un operatore umanitario di merda, che stesso nel loro signore. Paese, fabbricano quel loro paese, combattono per il loro paese, ragazzi, come siamo morti noi per la guerra. A questi umani, i miserabili uomini, operatori umanitari, fate. Oh. Ma pensa in casa tua chi sta morendo. Rispondi, pensa in casa tua chi sta morendo. Guarda. Quando tu vedi in casa tua chi stai morendo e li hai rinsaviti, allora puoi pensare agli altri. È la logica fisiologica, è il concetto primordiale dell'uomo. Prima devi pensare alla tua famiglia e poi pensare alle famiglie dei cornuti di altri paesi. Ciao ragazzi, ciao. Venga, che ormai è tutto finito. La Zanzara. Comunque io ancora non mi tolgo dalla testa il fatto che hai mandato via un ospite mentre assolutamente non era da mandare via. Una cosa incredibile. Mai successa. Almeno fammela salutare, no? È una questione proprio di decenza, di umanità, di un minimo di dignità. Cioè, quella... Cioè, mi è rimasta solo quella di salutare almeno le persone quando se ne vanno. Almeno fammela, no? Cioè, fammela coltivare questa cosa qui. David? Sì? Dove cazzo sei? Me l'ho assentato un attimo per... Ma che fare? Eh? Ma perché fare? Non ho capito. Cioè a fare cosa? Cioè, ti sei alzato per fare che? Sono alzato un secondo. Ti sei alzato così, uno se ne va. Durante la trasmissione se ne va, si alza e se ne va. Così, per si alza e se ne va. Mentre uno è in onda, si alza e se ne va. La pipì, diciamo. Ma quale pipì che sono 30 secondi? Non dire cazzate, dai. Fatemi salutare la signora Shawki, dai. Digli di rispondere al telefono, vai. Ah. Oh. Yes. Va bene, Marcello Udine, vai. Buonasera signor Cruciani, vai. E buonasera signor Parenzo. Qualcuno propone di lanciare l'hashtag io sto con Donato. Comunque, vabbè, dai. No, io mi sto appena riprendendo un attimo perché è veramente stata dura. Vabbè, oh. È piaciuto a molti però l'intervento del signor Donato. Telefono. Vai, vai. Allora, niente, io sono intervenuto, devo fare un paio di premesse, nel senso che sono un friulano, italiano, 48 anni, padre di famiglia. Questa premessa la faccio per dire sì, che, senza essere particolarmente lungo, però è prolisso, no, rapido, caro amico. Era una premessa che dovevo fare. Sì, dovevo. Sì. Ecco. Detto questo, ho subito un furto in casa, presumo, penso, non so, da parte di nomadi, non so se rom o sinti, non so. Sì. Mi hanno rubato tutto l'oro che avevo in casa, il mio oro, quello dei miei familiari, completamente. Non è stata una cosa piacevole. Va bene, poi? Ecco, benissimo. Arrivando al punto... C'è tutto questo, 40 secondi per dire mi hanno rubato in casa, punto. Ecco. Cosa che andava, che poteva essere espressa Udine, in secondi... Udine, friulano... Tre secondi. Poi? Bene. A questo punto devo dire che, visto che come tutti gli uomini ho un cuore, e nel mio cuore ci può stare un tot di odio, un tot di amore, questo odio che ritengo essere, come dire, molto prezioso ai sensi della sopravvivenza della mia persona e della mia famiglia, io lo devo usare con molta parsimonia, no? Allora? E tenendo presente il fatto, vivo in un paese dove la corruzione costa 60 miliardi di euro, ho fatto un rapido conto e alla mia famiglia questa corruzione costa 4.000 euro. Cioè tu dici, è inutile prendersela con i rom che rubano perché è più grave la corruzione, cioè nuoce più alle tasche degli italiani la corruzione. Io comincio ad averli in simpatia, addirittura, in simpatia. Parenzo, tu condividi quello che dice questo signore, rom, vero? Però mi sento di difendere questa categoria attaccata. Svillita. Categoria, dato una categoria, è una categoria di persone, come possiamo lo dirlo, no? Come il sindacato. Vabbè, un modo di dire, dai, ho capito, un modo di dire. Poi? Ecco, insomma, sono un'etnia, ecco, mettiamola come vogliamo, però sono attaccati, odiati da tutti, e mi riallaccio all'intervento dell'ascoltatore di prima, quando parlava appunto dei vigliacchi che sparano ai piccioni perché non sono in grado di sparare alle persone, esattamente nello stesso modo le persone attaccano i rom, i ladri rom perché non sono in grado di attaccare quei ladri che stanno inculando i loro figli. Io ne ho due e se devo dire della tutta, io sono preoccupato per il futuro dei miei figli, per quei ladri in giacca e cravatti, banchieri, politici, amministratori di ogni sorta, che sono quelli che hanno fottuto il mio futuro e anche quello dei miei figli. Cardinali, altro mettiamoci pure i cardinali. Di oro che avevo in casa, che mi hanno portato via, che mi avranno portato via sia no. No, se sei contento così, che non te ne frega niente dell'oro che ti hanno rubato. È stata una discriminazione. Quando si odia qualcuno, bisogna essere onesti nell'odiare. E quando si odiano i ladri, si odiano in funzione di quanto questi rubano e in funzione di quanto rubano i politici, io quasi quasi, rom, gli comincio anche a volergli bene. Pensa a te, sei diventato parenziano praticamente, che nel tempo si è trasformato in una sorta di portavoce delle comunità rom. Fermi tutti, dopo saluto la Shawki, dopo il traffico. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico... No. Ma sono una boiata pazzesca. Traffico, no! No! Fate qualcosa, vi prego. La Zanzara. Allora, signor Ciauchi è stata cacciata dalla trasmissione per ordine di Parenzo. Io ma non c'entro niente. Ma non è vero, niente, pensavo che non la volevo. Non è vero, tutt'altro. Io non c'entro nulla. Non c'entro nulla, la volevo io salutare. Pensavo che tu l'avessi avessimo finito il colloquio con lei, hai detto arrivederci, io l'ho ma salutata. No, non hai capito niente, di chi l'avrei, almeno, no. Ma l'avrei trattenuta altri 25 minuti. Vabbè, è con noi al telefono comunque, eh. Ciao, Ciauchi. Eccoci ci qua. Ci sono in diretta dalla macchina, sto passando in questo momento in Piazza Venezia. Ho l'auricolare. Si fermi davanti al Vaticano, una cosa meravigliosa. Di fronte al Vaticano, di fronte alle celle vaticane, bellissime. No, a Piazza Venezia sotto il balcone in questo momento. Sotto il balcone di lui, sotto il balcone del duce. Io volevo farle ancora due domande velocissime, però molto veloci. La prima è questa: perché il signor Bertone è così ricco? Adesso c'è tutta questa controversia sul risarcimento sulla storia del lattico, eccetera, eccetera. Perché c'ha tutti questi soldi? In teoria, liquidità, questa, cioè, questa liquidità. C'è, cioè, uno in teoria. Non ce l'ha. Non ce l'ha. Allora, come, no, nel senso non che non ce l'ha. Non ce l'ha. E chi gli dà i soldi? Non è ricco. Bertone non è ricco, posso dirvi. Assolutamente, almeno allo IOR o all'APSA o in altri posti dove la commissione ha avuto accesso non c'erano conti di Bertone con soldi. E dove li prende questi soldi per risarcire il Vaticano? Allora, intanto il risarcimento, cioè, risarcire, no, il Vaticano, una cosa. Una sorta di meeting praticamente. E sostanzialmente, poi, per quanto riguarda quella questione dell'attico, che lui, come lui ha detto, che questa cosa era a sua insaputa, che veniva ristrutturato con i soldi del Bambino Gesù, anche questa cosa qua è vera. Cioè? Anche questa cosa qua è vera. Cioè, è vero che lui non sapeva niente della ristrutturazione dell'attico? Dell'attico, certamente sì. Che provenissero dalla Fondazione Bambino Gesù, è vero che non lo sapeva. Cioè, tu dici le porcherie di Bertone sono altre? Allora, le porcherie di Bertone è un termine secondo me eccessivo. Gli errori di Bertone. Vabbè, errori, io li chiamo porcherie. Gli errori di Bertone, ma sono stati, diciamo, errori di governo. Io credo, non tanto errori voluti. Cioè, non si è arricchito, non è uno di quelli che si è arricchito. Non è uno che si è arricchito. E poi, comunque, la cosa, diciamo, questo accanimento contro Bertone è veramente una. Ma ce li ha? Quanti soldi ha sto Bertone? Io non lo so quanti soldi ha, attualmente ha, posso dire gli incarichi che ha, e quindi in realtà quello posso dirvi quanto può guadagnare. Cioè, lui ha diritto al piatto cardinalizio, che è sostanzialmente una sorta di vitalizio che viene data a tutti i cardinali. E quanto ha? È una cifra molto esigua, saranno più o meno 2.500 euro. Considerando attenzione, perché comunque c'è una serie di cose che vanno pagate in Vaticano. Cioè, tutte le spese, il cibo per le persone che sono là. Poi dopo ancora conserva una serie di incarichi all'interno delle congregazioni, e lì c'è un gettone che dovrebbe essere pari a, diciamo, poche centinaia di euro al mese. Cioè, quanto guadagna al mese oggi Bertone? Quanto prende? Io non credo che prenderà più di 3.000 euro al mese. Più di 3.000 euro al mese. E in banca quanto ha? In banca? Allora, nei conti in banca ho potuto accedere io, per quanto riguarda i lavori della commissione, niente. Assolutamente. Niente più della circolazione normale, dello stipendio e queste cose qua. E poi un'altra cosa che volevo chiederti è questa: ma quanti cardinali gay ci sono, secondo te? Cardinali gay? Sì, cioè... Ma no, allora, prima cosa non lo so, e seconda cosa, io credo che comunque giudicare una persona dal proprio gusto sessuale sia... Vabbè, io mica sto giudicando, nessuno, per carità. Uno no, fare... lo so, però insomma, comunque secondo me questa roba qui della conta di chi è omosessuale è una roba che a me non piace per nulla, quindi non ho idea. Non ho idea, e sinceramente credo che non sia neanche un tema. Vabbè, no, un tema, è un tema, come no? Perché... I gay all'interno del Vaticano, un cardinale, no, che fa, che non solo che è omosessuale, ma che ha anche attività sessuale, ha voglia. No. Allora, la sessualità, a prescindere dall'essere sacerdote o meno, un sacerdote sceglie di non viverla. Ho capito, ma siccome molti la vivono, invece... ma il fatto che comunque qualcuno pecchi, questo non vuol dire che comunque l'essere omosessuale rappresenta un'impossibilità di farsi sacerdote. Ci sono tantissimi sacerdoti omosessuali che sono dei grandi sacerdoti. Però non vivono la sessualità, dici tu. No, allora, nel momento in cui il sacerdote decide di fare il voto di castità, la sua sessualità, a prescindere dal se è una vocazione diretta... Però come fai a sapere che esistono tantissimi sacerdoti omosessuali che bravissimi? Vedi, credo che questo qua non sia un tema. Cioè, anche lì il problema, un sacerdote omosessuale, nel momento in cui la sua sessualità non crea problema a nessuno. No, ma certo, certo. Nessuno, non vedo per quale ragione. Senti, tu hai detto, una cosa, che praticamente con Campo Dall'Orto e con Renzi il Vaticano non tocca palla nelle nomine il della Vaticano RAI. Il Vaticano non tocca palla, sì, sì, l'ho detto, l'ho scritto su Twitter. Sì, l'hai scritto, l'avevi detto anche da noi, ma anche in questa tornata di nomine che ci saranno non tocca palla, cioè, e a chi è che scoccia questa cosa? Chi è che sta impazzendo? Come scoccia! Cioè, chi è che impazzisce per questa cosa? Il nome non posso fargli, però scoccia. Posso assicurarvi che scoccia. Cioè, con Campo allora, Chiesa non l'avrà... Non dimentichiamo mai che c'è stato un periodo in cui alcune nomine importantissime erano state fatte in diretta fra la Segreteria di Stato e i funzionari del governo. Però scusi... La bestemmia su Rai 1, la bestemmia, quella che c'è stata lì, che è sfuggita al controllo, eccetera. Beh, adesso il Vaticano si è mosso, mi pare, no? Che l'Osservatore schifo, Romano. Che schifo, non si sarebbe, allora, il Rai, più che una bestemmia, sono state fatte tante cose, insomma, che forse avrebbero dovuto urtare la sensibilità della Santa Sede, no? Per esempio le varie fiction dove viene celebrata la famiglia, che certamente non è quella cristiana, non è quella tradizionale, non è quella cattolica, eppure che male c'è? Appunto, ma no, siamo in uno stato laico, quindi tendenzialmente nessuno, però se il Vaticano si doveva indignare per qualcosa, avrebbe dovuto indignare per tutto. Qualche tempo fa non si sarebbe mai indignato. Questo posso metterci 10 mani sul fuoco. Va bene, grazie, a presto, arrivederci. Grazie, ciao. Va bene ragazzi, Anna Maria Livorno, vai Anna Maria. Allora, buonasera Cruciani. Vai, dimmi. Perché non fate parlare quel sant'uomo di Donato? Ma non come dovete far parlare tutte le sere, perché a suo modo dice delle grandi verità. Delle grandi verità. Mamma mia. E noi da questa parte... Ma guarda che è pieno di gente che mi ha scritto. Ma perché il mondo è pieno di idioti? È pieno di gente che mi ha scritto. È pieno di pazzi in sto giro. Sto con Donato davanti. Ma cosa c'entra? Ci facciamo delle grandi risate. No, ma una cosa però sono le risate. Una cosa è ridere, una cosa è pensare che dica delle cose vere. Sì, ma no? quel Parenzo dovrebbe stare zitto che parla troppo. Quel Parenzo è quello che sta adesso... Quel Parenzo lì che ha rotto proprio le pastine. Io faccio lo sciopero della parola, non c'è nessun problema. Ha rotto proprio la pastierina quel Parenzo. Se la sorella... parlare quel Donato che a modo suo dice questa è la cugina verità. È la cugina di Donato da Varese, si chiama Bianca da Varese questa. E va bene, va bene Anna Maria Donato. Allora poi forza Donato, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno Saro da Torino. Che mestiere fai, scusami Anna Maria, che fai, sei pensionata? Fa il purè nella vita. Sto preparando la cena. Beh. Ho lavorato, adesso sono pensionata. Sei pensionata. Pensionata da quanti anni? Da quando aveva 32? 34? Devi pensionata? No. Io ho fatto 35 anni di servizio e poi sono venuta via. Beh. Va bene. Saro, Torino, vai, Saro. Buonasera, io non vorrei dedurre Parenzo, non sono il cugino di Donato, ma dico che Donato magari enfatizza le sue cose, magari le dice perché ci marcia pure, perché sa che fa il simpaticone. Sì. Però devo dire che dopo aver ascoltato le follie di questo friulano che ha in amicizia e in simpatia i nomadi che gli fottono loro, dico 100.000 Donato, perché non può essere diversamente. Adesso uno può criticare o non condividere, ma a dire mi stanno simpatici i nomadi che mi fottono solo perché i politici sono più ladri è una cosa assurda, fuori da ogni mondo. È molto parenziana come cosa, eh? È molto parenziana, però voglio dire, insomma, è molto parenziana, è una cosa un po' snobistica, no? Cioè, alla fine mi stanno più simpatici i rom perché i politici rubano di più, perché gli imprenditori rubano di più. Chi ruba, se è esso rom o politico. Adesso stai rinnegando tutto quello che hai detto sui rom nel passato. Ma è chiaro che è un paradosso quello dell'amico che ha chiamato. Una volta hai detto anche che sono gli unici che dicono di rubare. Sono talmente... Fuori di dubbio, a differenza di tantissimi ladri poi passati in giudicato, questi sono quelli che anche quando rubano un pezzettino di rame che è grave dicono certo che ruba, ovvio ruba, mangiare ruba. Beh, cioè, questo è... No, non dicono mangiare per mangiare, non lo dico. Sì, ma dicono... ruba, certo che ruba, a che fare, non lavoro, ruba. Cioè, dove lo trovi un altro ladro che dichiara addirittura con la telecamera e con i microfoni di rubare? Da questo punto di vista vanno anche, gli va riconosciuto, come dire, un merito da questo punto. Patrizia, Roma, vai. Dopo le 20:30 sarà con noi il professor Paolo Becchi. Becchi, Paolo Becchi, che l'uomo ha rotto del giorno in questo che caso. Ha rotto con i 5 Stelle, sì, uomo del giorno. Come dicono gli americani. Patrizia, Roma, vai. Ciao Cruciani, io sto condonato per il semplice fatto che nella sostanza, senza ovviamente l'enfatizzazione, sono d'accordo, perché non tutta questa gente che arriva, non... cioè contro gli immigrati, sì, contro gli immigrati devono gli islamici, lo Stato deve, Renzi va fatto fuori, Renzi va fatto fuori, no, quello no, ha detto no, però no, amica questo, mia sì, vabbè, io ho detto nella sostanza. Nella sostanza, quindi nella sostanza. Alcune cose un po' è andato. Beh, e questa è la cosa principale. Lì, sopra lì. Vabbè, no, no, un sacco di gente sta condonato. Ho capito, amo. Patrizia, ho io capito. Ferma lì. Ferma io non lì. Amo Renzi, non lo amo assolutamente. Però non lo vuoi far fuori come Donato? No, beh, dai. Che ne so io, no, qui può succedere no, tutto. No, no, non si fa fuori così, si fa fuori con le parole, con altre cose. Patrizia, ferma lì. Questa radio deve chiudere questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione, poi anche la radio se non chiude la trasmissione. La Zanzara. Allora, 393 71 71 701 è sempre il numero per i vostri WhatsApp. Parenzo, vai a cagare tu ai rom. Qui siamo preoccupati per la tua condizione di salute, allora escludiamo la mononucleosi? Volevo lasciare un messaggio a quella grandissima testa di cazzo che è d'accordo con quei due pescatori della Sardegna, visto che gli stanno sui coglioni pernuti, perché non si attacca un bel petardo al proprio di uccello? Vediamo come si diverte. Pirla! Allora, caro Parenzo, in collegamento con noi uno degli uomini del giorno, il professor Paolo Becchi. Buonasera, caro Paolo, come stai? Quanto tempo è passato? Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, è passato un po' di tempo ed è abbastanza improvvisa questa notorietà per cosa? Poi per un'intervista... Nello stile grillino pubblicata nella rete, sì, un'intervista nella rete in cui hai annunciato che a partire dal 1 gennaio, cioè il 31 dicembre, non hai rinnovato l'iscrizione ai 5 Stelle. No, non esiste un problema di rinnovo. Vabbè, quello che è, dai. Sì, mi sono disiscritto. Ti sei disiscritto. Esatto. È come quelli che, Parenzo, è come si quelli sbattezzano. Si sbattezzano, sì. Mi sono sbattezzato. Come si fa? Si stacca a internet? Che si fa? Cioè, quando no, uno no, esce dai 5 Stelle... internet e c'è scritto, non come vuoi fa? Essere più iscritto attivo? E io ho scritto, sì, non lo voglio più essere. Beh, la rete, è normale, così funziona, ovvio. Sì, esatto, la rete, sì, è la rete. Cioè, tu vai là su internet, dentro la tua... Dov'è che vai concretamente? Dentro il sito del Movimento, dove vai? Vado al sito del Movimento, c'ho la mia password, che me l'ero dimenticata, sì. Me ne hanno dato una loro, che si sì. chiamava non so che cosa, sì. eccetera, non me la ricordo neanche più... E poi niente, ho digitato e ho detto che non volevo più essere iscritto, ovviamente, non sono più iscritto, tutto lì, basta. Una Parenzo, cosa... ma tu ti sei, io per esempio potrei anche sbattezzarmi, lo sai? Cioè sono stato battezzato, io mia madre la prenderebbe male questa cosa. E te credo. Però io potrei anche sbattezzarmi, ho letto una statistica, adesso mi ha fatto venire in mente questa cosa, sì. Perché poi torniamo a parlare dei 5 Stelle naturalmente, sì. Però sì. La statistica nel 2015 si sono sbattezzate più persone rispetto all'anno precedente, cioè nonostante Papa Francesco eccetera eccetera, c'è un sacco di gente che dove si è sbattezzata. L'ho letta, hanno diffuso delle statistiche. Guarda, in Italia non so come sia, all'estero però questa cosa esiste, sì. No, ma anche in Italia ci si può sbattezzare, basta inviare dei moduli alla propria parrocchia, diciamo, dove vedi, uno si è battezzato, sì. Moduli vedi, complicatissimi. Dove no, c'è tutto io non sono arrivato a quel punto, il battesimo me lo conservo, sai, non si sa mai, con l'aldilà è sempre meglio avere una protezione in più, ecco. Comunque la notizia è che mi sono sbattezzato votato dai 5 Stelle. Vi sono... Esatto. Sì. Allora, però, la sostanza è politica, è in realtà non è solamente una questione di andare là su internet e cliccare. Cioè, no. Ti sei un po' disinnamorato, diciamo la verità. Cioè, si può dire o no? È stato un grande amore, sai, certi grandi amori poi a un certo punto finiscono anche. Sì, ma infatti a un certo punto è stato un grande amore. Il movimento è cambiato, e secondo te è cambiato in peggio? Sai, meglio in peggio, questo io non lo voglio dire. Secondo te, però, secondo non corrisponde più ai miei ideali, ecco. Cioè, magari questa donna è anche diventata più bella, però a me non piace più. Cioè, tu dici anche più figa, però potrebbe anche essere più figa, più appetibile, più carina. Bravo, è quello che voglio dire. Però tu non te la vuoi più fare, diciamo. Questa esatto, è... proprio mettiamola così, non riesci più a fartela questa donna. Sì. Ho anche 60 anni. E questa donna se ne farà una ragione, io credo. Beh, sì, ma certo se ne farà ragione. Mica Becchi pretende che di essere insostituibile, come diciamo, come guru. D'altra parte, lui non è mai. L'hanno ribattezzato l'ideologo del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo, perché vogliamo semplificare, ma lui non si è mai sentito. Io lo conosco bene, Paolo. No, non si è mai sentito l'ideologo. Si è sentito molto vicino al Movimento 5 Stelle come movimento rivoluzionario che poteva cambiare proprio l'Italia. Così, bravo, sì, ma io lo so, Paolo. Adesso pensa invece che questa spinta propulsiva, questo spirito rivoluzionario sia scomparso, che il movimento si sia un po' anche imborghesito. È così, Paolo? È proprio così. È questo spirito originario che io vedo ormai spento. Ecco, è nato qualche cosa di nuovo. Un partito nuovo, ne avevamo tanti, adesso ne abbiamo uno in più. Cioè, tu hai detto abbiamo un partito in più, cioè abbiamo un partito. E questo è il punto, abbiamo un partito. Un partito, non è più il movimento, non ha più quella carica, tra virgolette, eversiva, il Beppe Grillo guerriero, l'Italia che lo rovesceremo come un calzino, ci hanno rovesciato loro come un calzino. Altro che... Cioè tu dici, alla fine ci siamo messi d'accordo col Partito Democratico per eleggere il giudice della Corte Costituzionale. Cioè facciamo gli inciuci, ma non si può negare che, insomma, cioè non si capisce se Berlusconi faceva quell'accordo era un inciuccio. L'ha fatto il Movimento 5 Stelle, non lo è, ma non si capisce perché. Cioè, esattamente la stessa cosa. Cioè tu dici, no? Che alla fine si spartiscono le poltrone. Che cosa è successo se non questo? È stata una spartizione di poltrone, come già precedente prima sulla Rai, no? Si sono spartite le poltrone. Cioè anche i 5 Stelle partecipano alla spartizione del potere. Mi sembra ormai un dato di fatto. Io non voglio offendere nessuno con queste affermazioni, però voglio dire, Freccero non è che è lì perché è bello e buono, è bello. Cioè tu dici Freccero è lì perché è espressione del nominato dai 5 Stelle, dunque Mi sembra, no, hanno dominato da Beppe Grillo, perché poi non c'è stata nessuna votazione online e niente, quindi Beppe Grillo ha detto votate questo e quello è stato, e diciamo. Basta, sì, appunto, non è dunque stato... è lottizzato pure lui, diciamo. Direi di sì, insomma, se sono lottizzati gli altri non si capisce perché lui... ormai è parte della stessa logica, io la vedo così, non riesco più a capire dove stia la differenza, cioè voglio dire, questi dati sono talmente palesi che non vederli bisogna essere proprio accecati da una sorta di fanatismo, ecco. Perché tu dici che è diventato la stampella di Renzi? Questo è una delle cose che non mi torna, è questa, perché io posso darti ragione su tutto e ti do anche ragione, perché a me piace più lo spirito garibaldino piuttosto che le piccole pastette parlamentari. Su questo non c'è dubbio. Io le pastette parlamentari non parteciperei. Cioè, se fossi uno del Movimento 5 Stelle, io proprio dire: guarda, a me non mi interessa la commissione di vigilanza della Rai. Non me ne frega assolutamente nulla. Non me ne frega nulla di partecipare alla vostra cosa. È vero anche che si controlla meglio dall'interno che dall'esterno, potrebbe essere un altro argomento. Insomma, che cosa hanno fatto? Non so, Fico, quello che rappresenta. Fico nulla. Ma appunto, scusate, quindi non è che mi sembra. Magari Freccero farà qualcosa o no? Non so, farei tornare in Grillo alla Rai, non lo so se ce la farà. Cioè tu dici che è quella la cosa, Grillo vuole tornare alla Rai? No, non voglio dire questo, però in ogni caso Grillo vuole tornare a fare teatro, lo farà adesso prossimamente. Quindi serve un consigliere d'amministrazione alla Rai, dice anche a Grillo. Insomma, può sempre far piacere, insomma, non dispiace di certo, ecco. La cosa che voglio dire è che quando dici la stampella adesso francamente non mi sembra, perché quelli attaccano Renzi a destra e a manca, però magari io non... Scusa, ma il problema è questo. se non è una stampella, non nel senso che faranno un accordo, che andranno al governo insieme, ma no, questo è fuori discussione, che non c'è. Una stampella nel senso che lo sorreggono fino a quel momento che ci saranno le elezioni e poi ci sarà il confronto. Cioè tu dici diretto. Che in alcuni momenti parlamentari il voto... Beh, ma ormai in parecchi, ma insomma il passaggio della Corte era emblematico, nel senso che se non si riusciva a votare saltava tutto. Dopo, e saltava tutto, perché a un certo punto il Presidente della Repubblica avrebbe potuto dire: signori, questo è un vostro compito istituzionale, sciolgo se non siete in grado delle Camere, se non siete in grado di votare i tre giudici, andatevene tutti a casa. Sì. Quindi gli ha tolto le castagne del fuoco. Adesso c'è in discussione le unioni civili, sì. No? E ovviamente Renzi non ha la maggioranza, può farcela, perché con tutti i discorsi. E tu dici che i grillini gli daranno una mano? Ma non è, ma è sicurissimo, ormai c'è l'accordo già fatto e siglato, il nuovo patto del Nazareno, chiamiamolo come cioè, patto. Cioè il nuovo patto del Nazareno in realtà è quello tra PD e 5 Stelle. Ma certamente, lo vedrai prossimamente, mi chiamerai per dire: Paolo, però avevi ragione, la prossima votazione comune sarà PD e Movimento 5 Stelle per passare l'Unione Civile, il prossimo ancora sarà lo Ius Soli. Senti, ma è un caso che tu il 31 dicembre te ne sei andato, oppure c'è qualcosa che ha fatto una goccia che ha fatto guarda, come hai detto tu adesso, c'è stata una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cioè? Io non pensavo io sono molto legato a Grillo, così come persona, figura, non ho nessun rapporto con lui. Ma quando l'ho visto trattare nel suo blog, che poi non è suo perché è di Casaleggio, ma insomma nel blog, cioè, che tu dici BeppeGrillo.it è di Casaleggio? Ma certo, questo è chiaro, il blog è gestito da Casaleggio. Cioè, Grillo non conta un cazzo in questo ma, nel suo conterà, nel senso che c'è il suo nome, ma a parte c'è questa etichetta, ma insomma non è che abbia... In ogni caso... Se tu vedi sul blog di Grillo pubblicata l'intervista al Financial Times di Di Maio, sì, in cui si sconfessa, si dà del buffone a Grillo dicendo: ma quello lì era è una cosa passata, adesso noi siamo sì, molto più maturi, altro che populismo. Il populismo, che era il cavallo sì, di battaglia di Beppe Grillo, è diventato una pericolosa tossina di cui il Movimento 5 Stelle è l'antidoto, primo. Secondo punto, Grillo, che ha sempre sparato, a mio avviso giustamente, contro la NATO, si trova scritto sul Financial Times, no, che il movimento adesso è diventato filoatlantico. Ma signori cari, voglio dire, queste sono far passare per un buffone magari ha fondato il movimento. Ho capito, tu dici che queste cose qua, cioè, ma chi controlla sto blog di Grillo? Cioè non conta più Casaleggio. Te l'ho detto, Casaleggio, te l'ho già detto 50 cioè il blog di Grillo volte, è controllato da Casaleggio, e dunque Grillo esatto, viene sbeffeggiato, diciamo contraddetto sul suo sito che porta il suo nome, esatto, da Di Maio, esatto. Sì, è una cosa, se fosse successo qualche anno fa sarebbe stato radiato. Non si, ti ricordi che non si poteva dire Beppe Grillo ha sbagliato, fuori. E qui addirittura c'è scritto sul Financial Times che niente, cioè, ormai comanda Casaleggio. Su, il sito che porta il nome di Grillo è semplicemente un nome, allora, una specie di ologramma. È un ologramma, l'ho scritto anche, un ologramma, non è così, è una sigla, come comincia, non so, il telegiornale con una determinata sigla. Ma scusa, Grillo, ma sei ridotto così, Grillo? Normale. Ma come normale? Ma Grillo si è voluto, Grillo si è ritirato, io non faccio so... Faccio lo spettacolo, Grillo verso Grillo, ormai è finito. Esperienza politica, anche la Merkel, Parenzo, in Germania, Parenzo, fa spettacolo teatrale. Parenzo, scusami la cosa, ma tu sì, sei stato il primo ad accorgertene. Grazie. Perché tutto è cominciato, io lo devo riconoscere, grazie, da Paolo, quell'intervista veramente, che hai fatto tu quest'estate. Grazie. Il punto di passaggio è stato quello, quindi tu sei stato il primo. Ma che è successo in quest'estate? Quest'estate? No, non so, l'intervista. Ma ricorda, in onda, quando intervistammo Grillo fuori dalla sua casa, lui che disse che avrebbe lasciato il passo, che si sarebbe dedicato esatto, ad altro, quindi che il suo ciclo il era finito. Vabbè, scusa, sì, Paolo, un'ultima cosa. Non è un paese per becchi, tu hai pubblicato una cosa su Twitter. Ma no? No, vabbè, ma quella è una cosa ridicola. No, vabbè, hai pubblicato uno scherzo. Vabbè, però hai messo una cosa, qui non c'è niente, è uno scherzo, oppure no, ma non è un paese per becchi, un film dei fratelli Coen. Esatto, c'è la foto di Casaleggio, Becchi e Grillo. Sì, ma me l'ha girata mio figlio, non so, navigava su internet perché adesso tutti parlavano di questa cosa di Becchi, no, e mio figlio me l'ha girata. No, così, ma però la cosa incredibile, non si può mai, c'è scritto sotto, non si può mai scappare facilmente. No, se Beppe guida un fuoristrada. Beh, c'è un riferimento al fuoristrada però qui. Vabbè, però pazienza. Io, a me piaceva quella foto così, l'ho messa così. In ogni caso non credo che mi asfalterà, perché ormai me ne sono andato io prima che loro mi mandassero via, quindi non credo che mi possa succedere più niente. Che ne so io, magari hai paura di essere asfaltato dalla fuoristrada di Grillo, che ne so. Cioè, ma dai. Ma ti hanno già minacciato? Dai, di solito una volta partivano. Ma no, insulti hanno finito. Ma ti devo dire, però insulti alla fine, però moltissime telefonate da persone del movimento che dicono che hai ragione tu. Che dicono che ho ragione io. Beh, sulla Corte Costituzionale, adesso non andiamo nei dettagli, però sì. Alcuni giudici che hanno votato i Grillini erano stati prima sbeffeggiati e criticati moltissimo da Grillo stesso. Su questo non capisci, non puoi sul blog criticare spietatamente Barbera e due settimane dopo farlo votare dicendo che è una vittoria del movimento. No, cioè, chiaro, su questo ha ragione. Senti, è una questione di incoerenza. Senti Paolo, ma il culo come va? C'ho il problema del cuore. Oh, ma come il cuore, scusa? Il cuore, io non mi è successo quasi come sgarri, ma quasi, sono dovuto correre all'ospedale, ma per fortuna era soltanto, non so come l'hanno chiamato, un attacco di pressione molto alta, ma non ho avuto niente. Ma quando è successo? Mamma mia. Quando è successo? Prima di Natale. Mi sono già ripreso, poco prima di Natale, mi sono comunque già ripreso, insomma. Ma non è avuto sta bene, il cuore meno. Ah, il culo si è ripreso, adesso siamo passati siamo saliti, insomma. Siamo saliti, sia una parte più nobile. Cioè, diciamo, le fistole. L'abbiamo risolto. Mi devo controllare il cuore, cosa vuoi? C'ho problemi di cuore. Poi pure Gio, quanti anni hai, scusa? 60. Vabbè, ma 60, sei un ragazzino, dai, su. Cioè, a presto, ciao Paolo. Ciao a tutti voi, ciao. Something that you haven't thought I ever do. Oh, I suffer, call you over when you feel there's nothing left in you. Il fatto che si tromba meglio quando sei circonciso è una emerita cazzata, perché avendo sempre il glande esposto hai meno sensibilità. Secondo me a 400 euro l'uno, Parenzo, minimo dei profughi ne piglia 10. Sentite, a prescindere da borsa, bot, CCT, culi e slinguamenti vari, qua in provincia di Matera, quando lo potenziate sto cazzo di segnale che fa interferenza con Radio Maria, e mentre sento un po' di vostra poesia mi capita padre, come cazzo si chiama lui, con il Padre Nostro, fate qualcosa in provincia di Matera. Allora Marco, provincia di Torino, vai Marco. Eccomi, volevo solo dire due parole a Parenzo per ricordargli e invitarlo ad andare a vedere i conti correnti dei Rom. Visto che loro rubano per mangiare, rubano sto cazzo per mangiare. No, Parenzo ha sempre detto che rubano perché rubano e basta. Prima ha detto rubano mangiare. Facevo la parodia di quel che i nomadi dicono, però non capisce. Ma non mi stupisce che non capisca. Vabbè, ma ragazzi, io non capisco mai. Ti ascolto tutte le sere, Parenzo, tutte le che sere. Che tu abbia, però adesso la cosa è incredibile. Vomito, la cosa è... vomito. Sì, vomita mi viene pure. Da vomitare. Ma vomita pure, fammi sentire come vomiti. Sì, così proprio, guarda, proprio una cosa da però, schifo. La cosa che mi fa impazzire ogni tanto, che Parenzo rinnega il fatto che per anni, non dico che ha difeso i ladri, perché non ha mai difeso chi ruba. Ecco, appunto. Però no, hai sempre avuto una parola. No, ma questo no, devo dire. Io non l'ho mai difeso. Odio e detesto, lo ripeto ancora, il fatto di indicare alcune categorie, alcune. Ma quello è normale, ma se i ladri si annidano lì, uno che cosa deve indicare? Se quelli rubano, rubano i Rom. È normale che rubano. Cioè, rubano. Uno dice i Rom rubano, perché la maggior parte dei Rom ruba. C'è poco da fare. I conti correnti dei Rom li hanno pubblicati sui giornali. 120.000 euro, 250.000 euro. E quelli da dove arrivano? Lavorano? Lavorano? Parenzo, vorrei solo sapere quello da te. Qualcuno io l'ho conosciuto, come no? Che lavorano e come? Certo che lavorano. Nei cantieri, certo, li ho visti anche. Ah sì, guarda, io li ho avuti anche. Per fortuna che non erano zingari, erano neri. e li ho avuti anche nell'impresa che lavoravano. Ma lei è già arrivato? Erano persone oneste. È già arrivato a casa? No, c'ho ancora 30 chilometri per ascoltare un po' di Zanzara. Cosa fa? Quando torna a casa lei telefona prima o no in genere? Ma perché adesso devi perché devi pensare che, tu, no, che sua moglie lo sta tradendo? No, no, non, non ho chiesto questo, non so neanche se è sposato e non mi interessa. Ho chiesto se quando torna a casa sta avvisando, ci sono a 10 chilometri, ho chiesto, non ho ancora no, detto. No, io non avviso mai perché mi piacciono le sorprese, anzi sorprese. Quando arrivo a casa se dovessi trovare mia moglie ecco, a letto con qualcun altro magari mi diverto pure, guarda. Beh, questo attenzione, va bene, questo è molto interessante perché devi sapere, Parenzo, che oggi è stato a lungo la moglie sta ascoltando e si sta divertendo. A te veramente farebbe piacere trovare tua moglie che scopre con un altro? Credo al 90.9% di Roberto, Roberto ha detto una cosa molto interessante. Marco, approfondita, se no? Tu torni a casa e trovi tua moglie che scopre con un altro, ti fa piacere o no, Marco? Ma non me ne frega un cazzo. Vabbè, magari piacere. Non mi interessa. Tanto non. Se dovesse capitare, ma proprio non mi tangerebbe minimamente. Prendo, chiudo e me ne vado. E poi quando ritorno dico: ti è piaciuto? Allora, un marito registra il momento esatto in cui trova sua moglie che tromba nuda con l'amante sul divano. L'uomo riprende mentre gira la chiave, vede la scena e domanda: sei Jason? Come stai? Stai con mia moglie? Perché quella è mia moglie. E poi calmo alla fedigrafa: mi dai il divorzio? Per favore, non posso continuare così. All'amante della moglie: Jason, so che sei un bravo uomo. Tranquilli, questo video non vedrà nessuno, solo il giudice. Scusate il disturbo e buon proseguimento. Cioè, questo è successo in America. Ma è più o meno. Tu riprenderesti la scena, Roberto? Ma sì, Roberto, potrei anche riprenderla. Poi la porti al giudice. La porti al giudice e così, no? Ti diverti un po'. O no? Se prende buona la prova, mi concede il divorzio immediato, ma tanto adesso si divorzia facilmente in Italia. Ragazzi, la calma olimpica di quest'uomo che dice: io torno a casa, vedo mia moglie che tromba con un altro, non me ne frega assolutamente nulla, non me ne frega, anzi esco da casa e aspetto che finiscano, è straordinario. Ci sentiamo domani, ciao. Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar. Allah, andate al bar. Allah, andate al bar. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh. Radio 24. La passione si sente.